cosa post. Ok, wow. Siamo in diretta. Dove? Su Facebook. Sì, ma io... Cioè, sì. Con il quinto episodio di Coloni che si chiama Ultimo Scalo. No, e mentre cerchiamo di capire come funziona tutto, vabbè, sì. Vediamo se si sveglia. Cioè, non è il mio personaggio. Perché dice che ci siamo già da 12 minuti in diretta? Questa non l'ho ancora capita come cosa. Perché in realtà siamo da 12 minuti in diretta. Tutte le cose che ho detto non le pensavo. Ma in teoria, no, però, boh, vabbè. Perché appena assaggetto già il più no, termina, no. Mi basta il più 12. E va bene. Forza, non mi interessa solo destrezza. Mentre Sheo sale di livello al mio posto, senza il suo indugio. Sì. Al terzo livello a master, così senza neanche giocare. Aumento la destrezza di livello. Beh, hai anche cambiato un personaggio, sono già salito da 3. Capito, ragazzi? Ho aumentato la destrezza di 2. Bravo. Ora puoi tornare. Sì. Io vado bene qua. Sono in favore di telecamera e di luce. Sì. Di luce, sì. C'è un illuminato! Illuminato! C'è quello illuminato! Bene, siamo io e Salla che guardiamo la diretta. Beh, tra le due preferisco rispetto al casino che abbiamo fatto ieri. Era stato molto divertente l'altra volta. Però ci abbiamo perso abbastanza tempo. Ah, adesso Federica. Non hai visto la diretta? Ah, male. Che cacchio di rinuncia è questo? Quello che vuole Sheo, rega. No, non era questo. È la sigla che vuole Sheo. Non è questo. La prossima volta te la scegli tu, allora. Mi hai detto. Mi hai detto remix e questo è il primo risultato. Vabbè, la prossima volta ascoltiamo Germano Mosco. Meglio. Sì, infatti. Così ci vanno diretta. Che siamo su Twitch che non si può streamare. Beh, magari arriva la chiesa invece della polizia con le persecuzioni. Sì. Certo, Dio fa la neve e poi lo scegli. Ok. Vabbè, l'as tu vai un po' più là. Sì, è che c'ho sempre la gamba del tavolo. Vuoi venire un po' più in esatto, abbastanza. Va bene, rega, direi che qua c'è roba che non è mia. Non capisce, se la faccio sentire quella bella. Non la vuole sentire. Cioè. Il tuo contributo alla sigla, questo è molto meglio, a voglia. Bellissima. È un capolavoro. È molto più bello. Grazie, prego, prego. Cioè, non avrei voluto vivere senza questa cosa. Ferro. Allora, benvenuti al quinto episodio di Coloni. Giochiamo a Dungeons and Dragons, ormai lo sapete, versione 5.0. E qualcuno però si è preso. Roba. Non è stato il la tua personale sigla, quello è Poker di Cazzo. Sì, per il mio odiotto. E quando Sheo ha finito la sua personale sigla, e va bene. Allora, un messaggio di odio, Giulio. E no, come dicevo, questo è il quinto episodio di Coloni e si chiama Ultimo Scalo. Oh. E sarà l'ultima puntata della serie. No, scherzo, speriamo. Già. E parliamo di quello serie. Se volete che l'Asa abbandoni questa stanza, potete votare. Fate una donazione. No, scherzo. Dobbiamo continuare. Perché metti la cosa che mi dà un fastidio? Solo che spazio. Quanto tempo che sotto la cosa sì, dai. Dai, sotto fondo ci sta. Se potessi spegnerlo, magari ti farei veramente salire di livello, se no se vuoi restare. Non gli puoi dare qualcosa di contrario all'ispirazione per punirlo? Sì. Posso farlo morire di nuovo. No, però posso farlo morire di nuovo. Avresti dovuto interpretare lo zio ed essere contento. Sicuramente sarebbe piaciuto un casino lo zio, proprio hai capito tutto. Lo zio. Se oggi ci seguisse potrebbe esprimere il suo parere, ma esatto, magari è meglio di meglio. Ma come potrebbe avere di meglio da fare quando c'è il quinto episodio di Coloni? Insieme a me Andrea Giacomo Vecchi da Bologna abbiamo Giulio Bosi, Luca Lazzarini, ma non da Bologna. Questo non mi ricordo come si chiama, Stefano Gamberoni, Enrico Cantabriga e da Marsiglia Edoardo Saladini. Siamo al completo. E a questo punto viene il momento più bello della sessione, cioè quando voi tutti dite: no, non voglio fare il riassunto. Però in questo caso lo farà il master. Se non vi decidete di 12 secondi, sì, però qualcuno potrebbe fare. Vediamo un dado. Esatto. Io non lo voglio fare. Che era andato. Ti fai il più basso o il più alto? Tutti era andato. Io non c'era. Io non c'era. No, la fa Carter. 5. È stato protagonista della scorsa sessione, quindi lo fa Carter. Ah, quindi possono non essere protagonisti della sessione. Per te è un può essere in protagonista in positivo e in negativo. Ah, ok. Ricordo. Esatto. Bene, tipo, la scorsa quando sei morto l'ha fatto lui. Sessione abbiamo visto uno scontro. Tra... lui ha visto un sacco di cose. Secondo me dovrebbe sempre farne il bar. Uno scontro tra la vita e la morte, tra il giorno e la notte, tra i controlli dell'autobus e Lazzarini. E, siamo finalmente stati apparentemente ricompensati. Perché fai un altro gioco tu nel mente? Perché sono polivalente. E siamo stati apparentemente ricompensati dopo il nostro epico scontro contro quei Merfolk, contro quei insomma Merrow. Che ha visto il sangue spillare nell'acqua sia da parte loro che purtroppo anche da parte nostra, e pieno di gratitudine il nostro amico anziano capo dei pescatori ci ha regalato questo bellissimo pendente per pendaglio con una gemma luminosa incastonata. L'inventario è finito tra quest tra oggetti disponibili. Infatti ci siamo subito chiesti il perché, ma subito dopo c'è stata data la risposta. Ah, tipo, non puoi vendere quei oggetti di missione. Esatto. Se lo provai a buttare per terra non ci riuscivi. E per questo, cioè, dopo che ci siamo rimbarcati per fare rotta verso Libecca, ci siamo ritrovati in una nebbia avvolgente e impenetrabile. Una volta che questa nebbia si è dileguata, ci sono piombati addosso in un arrembaggio. Non può mettere mi piace al suo commento, continua pure. Un arrembaggio perpetrato ai nostri danni da parte di una ciurma di scheletri non morti. Al che era un altro profilo. Io mi sono rimboccato le maniche e ho cominciato a ripulire il mare dalla feccia che era rappresentata da questi individui. Il problema però qual era? Che questi, a quanto pare, una volta sconfitti, ritornavano in piedi ancora e ancora. Ma Shiro sarebbe piaciuto avere quel potere. Esatto, uno di quelli era Shiro, il vecchio personaggio. E la situazione sembrava disperata quando ecco che proprio loro hanno portato una bara contenente uno scheletro dorato a cui mancava, indovinato un po', la testa. Non tutto dorato, però sì, vabbè. In gran parte dorato. E il caso ha voluto che Giulio, come al solito, aveva con sé l'ultimo pezzo mancante risvegliare il terribile capitano Corbin, no? Crane. Corbin era quello che Corbin è quello che gli ha dato il medaglione e gli ha spiegato la leggenda. Beh, io non c'ero. Cioè, quindi vi ha dato questo medaglione, vi ha spiegato la leggenda, voi siete ci ha detto tipo una frase medaglione. Gli ha detto questo medaglione che è mio tricinonno. Ma quindi tu non hai guardato la puntata? No. Ah, tu? Io c'ero, l'ho vissuta, però non si ricorda. Io l'ho ascoltata la puntata. Questo Corbin ci ha dato questo medaglione dicendoci che poteva essere la chiave per risolvere la maledizione del capitano tremendo Crane. Detto il tremendo. Il tremendo. Ah, ok, pensavo fosse un tuo aggiunto mentre cercavi il nome. Veramente detto il tremendo, infatti ho segnato solo quello. Tremendo, cattivissimo, ostico, guarda che cerco il nome, sembrava. Esatto, ma non ci ha dato nessunissimo dettaglio, quindi io, mentre lui mi stava attaccando, ho deciso di gettargli addosso. Mi ha detto che con riconsegnargli il medaglione sarebbe stato la chiave per spezzare la maledizione. Ah, ok. Però non ci ha dato nessun altro dettaglio che voleva dire spezzare la maledizione, cioè... Esatto, però Kat ha avuto l'intuizione che riconsegnandogli il medaglione avrebbe spezzato la maledizione. Ah, no, aspetta, questo gli aveva detto come? Gli aveva dato l'inspiration. Abbiamo combattuto, Kata gli ha dato il medaglione, loro è tornato umano, e tutta la ciurma è tornata umana. Poi è stato ucciso il cane. Scusami, è adattissima la psicologia. Poi è stato ucciso allora solo di Crane. Una volta ucciso lui è stato tutto ringhiottito in un vortice nell'acqua, è finita. Esatto, questo è stato più o meno quello che è successo nella scorsa puntata, che era appunto veleno. No, sì, però dico, la chiave era quella. Sì. Uscirò quanti punti ferita hai? In teoria 34. In pratica sei a zero. Sei svenuto. Fai un tiro. Eccomi qua. Ora conoscevi questa leggenda da pirata? Ne avevo sentito parlare, ma non molto nel dettaglio. Ok, Sheo, tu hai 22 punti in meno rispetto a quelli che avevi. In serio? Sì, perché hai combattuto contro tutti gli scheletri che ti attaccavano. Sei stato però molto eroico anche tu, anche se eri separato molto dagli altri, e questo non l'ha detto Katta, perché praticamente per cercare di evitare la nave pirata dei non morti, il capitano Tarren ha cominciato a fare delle manovre evasive che a te, che non sei abituato ad andare per mari, hanno creato un forte mal di mare, e quindi sì, Sheo ha cominciato a vomitare fuori bordo, e però quando poi ti sono arrivati addosso gli scheletri ti sei ripreso per combattere, ma eri lontano da loro, che mentre vomitavi per qualche motivo non hanno voluto seguirti. Getto d'acido. E quindi erano lontani da te. Esatto, erano quindi sì, la nave del capitano Crane e tutta la sua ciurma vengono ripartiti nel mare. Però quello che non ha detto Katta è l'ultima fase della puntata, in cui praticamente il capitano Tarren appariva abbastanza adirato nei vostri confronti, nonostante voi siate stati particolarmente eroici, perché praticamente ritiene che voi abbiate portato su di lui, sulla sua nave, la sciagura. Ah, comunque prima o poi perché tu stavi parlando di poco, perché il capitano morirà. E per questo, anche spoiler, perché era stato tutto abbastanza evidente il fatto che il teschio che aveva rianimato il capitano Crane l'avevamo messo noi, era uscito fatto dallo zaino di Giulio, tant'è che quando ho fatto due percezioni, in poche parole, se noi non avessimo mai portato lì quel teschio, nessuno ci avrebbe, cioè saremmo morti. Diciamo che Crane già è crazy. Io ho capito questo, che rimettendo il teschio insieme allo scheletro l'abbiamo rianimato. Ho capito questo. Sì, ma la ciurma andava comunque in giro. La ciurma era comunque già viva da prima. Questo non avevo capito. Questo. Diciamo che voi da quando avete recuperato il teschio? Cioè, l'unico modo per fermare la ciurma e il tutto era ricomporre lui e rifarlo tornare umano con il medaglione. Ex post sembrerebbe che la situazione fosse questa. Il fatto che ci fosse il teschio da voi recuperato ha attirato su di voi questa nave fantasma. Certo, evidentemente il teschio il teschio era l'ultimo pezzo per completare il capitano. È probabile, siccome lo scheletro del capitano è costituito da altri pezzi dorati, è probabile che tutti i pezzi dorati un tempo fossero stati dei cimeli nascosti chissà dove, che però nel corso degli anni erano stati recuperati da gente ignara, che poi la nave fantasma aveva distrutto e recuperato il pezzo. L'ultimo pezzo era proprio il teschio, che è quello che avevate voi. Nel momento in cui avete recuperato anche il medaglione, la nave, diciamo, è diventata reale e vi ha agganciato. E questo ovviamente non è che il capitano Tarren lo capisce, ma quello che capisce è che questi vi hanno attaccato, il teschio è uscito dallo zaino di Giulio e si è rianimato questo pirata fantasma. Cioè, secondo me li abbiamo portati noi, in un certo senso. In più, Giulio prima aveva fatto un incantesimo di luce quando era nella nebbia sull'albero. Cosa che aveva fatto adirare molto il capitano Tarren, cioè aveva creato molto scompiglio in generale sulla nave. Ma non gli va mai un cazzo. Pisci nel coso, mi va bene. Tenete presente che comunque la magia in questo mondo non è una cosa particolarmente comune, e soprattutto sempre meno negli ultimi anni. Quindi, diciamo, magie molto vistose creano nei comuni un senso di paura. Poi la luce nella nebbia in realtà abbaglia. No, infatti non aveva fatto nessun effetto, cioè ha fatto una specie di cosa. Sì, era solo una prova, perché l'altro incantesimo creava una folata di vento che avrebbe distrutto la nave. Ok, accendiamo la luce. Esattamente, era una prova. Io stavo per partire con l'altro, vabbè, se non lo vuoi non lo uso, atti vostri. Fatto sta che il capitano, dovendo scegliere, è evidente che il capitano non ha grande simpatia per la magia, che a quanto pare è considerata un po' una cosa sventurosa sulle navi. Non è magia. Comunque il capitano Tanner arriva da voi e dice che è stato che nonostante il vostro comportamento è stata una sventura prendervi a bordo, ma cioè dice, vi chiede, ma perché cosa avete fatto? Avete portato su di noi la rovina? E a quel punto, nell'ultima puntata, il personaggio di Salla, Cabe, dice, non noi, lui, indicando Giulio. Non è vero, no? Sì, sì, puoi andare a riscoltarlo. No. Puoi andare, possiamo anche riascoltarlo, se vuoi. Ma non era in gioco, Ciccio. Sì, era in gioco. Era in gioco. No, mi ricordo benissimo che non era in gioco. Era in gioco, assolutamente. Io ho detto, non siamo stati noi, è stato Giulio. Vuoi riascoltiamo? Giulio. Prenditi la responsabilità delle tue storie. Giulio. Io sono rimasto così, era in gioco. L'ultimo, se vuoi, ma tu hai detto indica Giulio, ma non hai detto indico no, Giulio. No, tu hai detto indico Giulio. Se vuoi lo riascoltiamo. Riascoltiamo. Quella Viola in campo. Viola, VAR, VAR. Se riusciamo a ritrovarlo. Vedi già che il master mette le mani avanti, non so se lo troviamo. No, però era andata così, raga. Alla fine un dettaglio importante. No. Alla fine lo Zeno era di Giulio. Beh, dipende, nel senso che lui scarica un po', ma no, questo è quello che c'è, quello di oggi. No. Adesso vediamo se riusciamo. Questo qua dovrebbe essere. Beh, potrebbe essere l'occasione perfetta per scaricare il barile su quelli che ci hanno fatto lo scherzo del lotario. Infatti io volevo farlo indicare allora per quello che Beth, secondo me, non dico io Giulio. Tempi tecnici per la moviola su Tycoon San Dragon? Beh, in realtà probabilmente il suo valore è già boh, qua sarà qua da qualche parte. Probabilmente un valore ce l'ha, vuol dire classico oggetto di missione che dicevamo prima. Cos'è che problema? Era il medaglione che c'è rimasto, quello che aveva la pietra che si illuminava, che adesso non si illumina più. È quello che l'ha fatto tornare umano? Quello è rimasto a voi, questo, a noi? Sì, sì. L'Augusto, sta benedetto Augusto. Non so se è qua. Quanto hai pagato, Kat? No, 500 monete d'oro. Questo era il quarto episodio. No, allora è prima. Vabbè. Peccato, oggi non abbiamo. Se era così in realtà, però vabbè, se volete la cambiare. In realtà, secondo me è stato lui. E voi avete detto, indicando Giulio. E io ho fatto la gay. In realtà il master non aveva una storia pronta per oggi, quindi sto cercando di perdere tempo. Anche secondo me. Cose infamanti. Vabbè, detto come ti pare. No, è così, rega, però vabbè, se vuoi la cambiamo. Non so, io non c'è. Cioè, se vuoi dirmi che non intendevi in gioco, vabbè, no. No, in realtà io l'ho detto indicando Giulio, e se l'ho detto quello che avete detto, indicando Giulio. Ah, ci sta, indicando Giulio. Ma in realtà quello che volevo fare è indicare un altro, tipo uno dei pizzi stronzi. Però vabbè, come ti pare, ragazzi, non mi interessa, sto facendo un'altra roba. Stanno per andare a cambiare le cose. Ha detto sto facendo, sta disegnando. Visto che i nostri follower oggi non ci sono, ecco sì. Solo che non riesco a andarci con grande precisione. So che è già passato il tempo, ma puoi fare il disegno di uno che fa la pipì nella vasca? Ed è scemo, però. Stavo dicendo io, però con la mia faccia. Guardate il primo personaggio, così fate segno. È già morto. Penso che appena dietro questo è il BG di scemo. Vabbè, comunque tra poco, tra un minuto. Aspetta. Vabbè, tu sei fuori, cazzo. Perché Giulio ha fatto una magia di 10 minuti e ha curato 9 punti di vita. 10 minuti. Io 6 secondi, 8 di. Ah, ho fatto 4 e 3 non ho. Ah, perché beh, potevo fare poco di più in realtà, non è che... Tu dici che potevo far 20. Però quando ho provato a giocarla, a usarla in game, in combattimento con la... Oh, la tua! Eh sì. Attenzione, ci siamo. Ma ancora. Sì, è stato molto divertente. Ecco, io su giù se ne va, infatti. A 9 a testa, non si sì, ah, sente. Sì. Beh, no, vabbè, 10 minuti. Sì, non è di massa, ci spostare. Dai. Però magari sul momento effettivamente famoso. Arriva da voi il capitano Tarren, è coperto di sangue all'ottavo. Ta-ta-ta. È un non morto, quindi il frigifero non funziona più, purtroppo. Ah, no. Ecco, tu hai detto non c'è di che? Avete combattuto con onore, questo è chiaro. Ma avete anche portato la rapina su di noi. No, lui è perché. Avete sentito? Va bene, basta. No, lui. Okay. In effetti non ha detto avremmo Giulia, evitato 20 minuti così se no, avessi creduto in principio, va bene, e ok, non l'ha detto il chierico, ripartiamo, esattamente, siamo certi che Giulio fosse l'unico chierico in zona? Beh ma era l'ultima giornata della sessione, non pensavo neanche fosse in gioco. E invece il master disse così. Ecco, beh, io l'ho interpretato in gioco. Vedere il colplay. Vabbè, adesso non mi interessa come interpretato. Vai avanti. E allora il capitano si rivolge a Giulio e fa: tu tu che porti la stregoneria su questa nave, hai portato la rovina su di noi, guardali. Ti indica i cadaveri dei coloni e dell'equipaggio. Quelli sono tutti sulla tua coscienza. E non passano tutti. E me giuro, e vai! Grazie per me, grazie. Non dovresti ridere, credo, a questo punto. No, non è il personaggio, ma fa il personaggio. Il giocatore il giocatore molto, però, capitano, tecnicamente la rovina l'ha portata allo scheletro. Guarda come si rimangia le parole. Tecnicamente lo scheletro. No, tutti abbiamo visto il Giulio che portava la rovina. La rovina che Giulio ha portato su questo tavolo. No. Il foglio però è andato. Per i dati che per i fogli ti spiego un attimo due cose che sono veloci. Fogli. Di cosa? Che c'è che spiega chimica? Oh, non ci deve stare! Oh! Ti spiego la chimica, funziona così, quando una cosa si bagna è bagnata. Plastificato. Sta insegnando a Shio che l'acqua non va nella plastica. Visto che era sotto tutti quei plastificati. Non è detto, l'acqua va dappertutto. Ma era birra. La birra, aia. Allora. E niente, Giulio abbandona la conversazione. Giulio è stato battuto dal Ruppolo Maleficus, il nuovo mostro introdotto dal Master. No, Dice, ad ogni modo, vabbè. Anche se sei andato via senza rispondervi, non cambierà. Esigo un risarcimento. Lui dice: abbiamo tutti visto il teschio che usciva dallo zaino di costui. Ora voi affermate di non saperne nulla, forse, ma non era io non vi credo. Stavate cercando. Il teschio non ha ucciso nessuno, capitano. Il teschio è diventato... era il motivo per cui questi fantasmi ci hanno inseguito, è evidente. Ne è sicuro? Perché qua l'esperto di magia non è lei. No, ma conosco bene la leggenda del capitano Crane. E quindi sa che abbiamo fatto un servizio al mondo. Forse avrete salvato altre navi del futuro, ma di certo avete provocato l'uccisione di molte persone qui a bordo. Lei potrà dire che è il capitano che ha fermato il Crane. Non credo che molti possano vantare qui tale titolo. Forse noi abbiamo una diversa percezione della realtà. Forse voi siete qua per cercare gesta eroiche ed essere cantati nelle leggende. Io faccio il mio lavoro e porto cerco di portare più gente possibile salva alla mesa, cosa che voi mi avete impedito in questo caso. Nessuno di noi voleva la morte di questi di queste povere anime. Tranne Giulio. Ad ogni modo... No, anch'io. Cioè, non sono state sacrificate in nome del mio Dio, quindi no. Dice, beh, l'avervi preso a bordo è stata un'immensa sfortuna e sventura per tutti noi. Ma ad ogni modo cerchiamo comunque di arrivare sani e salvi al porto di Narcan, se riusciamo. Ora Lotaria è chiaramente danneggiata. Una domanda, comunque. Lui ha visto che il teschio usciva dallo zaino di Giulio, quindi non stava facendo un'emerita pippa mentre... No, quello è stato un momento scenico di cinematografico. Cinematic. Tutti l'hanno visto. Sì. O magari ha fatto un 20 in percezione. Allora, Salla, in quel momento la telecamera l'ha fissa sullo zaino. È vero, Giulio. Il tuo zaino è bucato. Cadono delle cose. Che oggetti hai? Quanti oggetti hai? Sì, certo, li puoi raccogliere. Nel mio zaino c'è... No, va bene. Probabilmente il kit da robot. Ok, è un buco che può fare un teschio. Sarà un buco grande così, più o meno. Mangiato via. Il teschio quindi è uscito da solo. Sì, ha mangiato lo zaino ed è uscito. Sto facendo wow. Ha preso vita una volta vicino. Esattamente, sì. Il priest pack, il kit da robot. Hai ragione, ragazzi, quando dici che i riassunti sminuiscono le tue scene. Avrai almeno 10 oggetti. Le piene di... Esatto, va bene. Di preghiere. L'ottavo oggetto. Non ne ho 10. Allora mi fai conta anche i soldi. Ah, soldi te ne escono. Ottavo, fai conta 8, 1, 2, 3, 4, allora, 5. 85 monete. No, 8 monete da prima. No, 8, 8 dai tuoi oggetti o dall'1 all'8. Fai, non ho 8 oggetti. Vabbè, fai. Ne hai 4, fai 4, 1, 2, 3, 4, ricominci. Ok, da arborista. Non ha capito. Quanto hai contando? Ne ho due! Di intelligenza hai due oggetti! No, ho due oggetti! Hai due intelligenze. Se devo contare anche le monete, sono 4. Perdi 98 monete, escono. Non ne ho 98. No, quante monete hai? 33 d'oro e 8 d'argento! Allora. Ma che cazzo? Vabbè, te ne esco 98, mi raccomando. Esatto! Va bene, una manciata di monete e un oggetto a caso ti sono caduti. E il tuo zaino è bucato. Va bene, e... il capitano dice, va bene, Lotaria ha bisogno di un minimo di riparazioni, perché comunque nell'assalto si è danneggiata. Quindi ora il capitano, quello che vuole fare il capitano è praticamente andare nel punto più vicino possibile e sbarcare alcuni dell'equipaggio per recuperare dei tronchi. Posso dare una mano? Immagino che visto che... la magia! E vi informa che... Anche io lo voglio un tronchio. Sì. E vi informa che voi sarete sicuramente uno dei gruppi che andrà a recuperare. Andrà a recuperare cosa? No, ma visto che la magia è che faccio il lavoro. Non ho capito. Sì? Tronchi per fare riparazioni. Conti, caro suo fratello. Per cui praticamente la mattina seguente all'alba arrivate in questa baia che si chiama Baia delle Piogge. E infatti c'è una lieve pioggerella tutto attorno a voi. Ah, che bello. Non è un gran punto dove sbarcare, ma è quello più vicino e c'è bisogno di sbarcare. Non si può sbarcare proprio a riva, però è una baia più o meno coperta, quindi quello che si fa è praticamente alcune scialuppe vengono calate e si va a terra, dove nella foresta, diciamo, oltre la spiaggia sassosa, verranno presi dei tronchi, poi diciamo tagliati e portati a bordo. Questa è un'operazione. Il riposo ha fatto un long rest, sì. Cioè, quindi trasportare dei tronchi pesanti, a lui cosa serve? L'ho appena detto. A dire quali... No, io non scendo, il capitano vuole che voi, in quanto comunque responsabili, siate tra i gruppi che scenderanno. All'ordine, capitano. Tra l'altro, siete anche le comunque chiede. Tra i più prestanti. Quindi ha senso. Vabbè, io lo faccio. Cerco di andare col gruppo... Vabbè, Cabe, se tu vuoi, puoi dire che non vuoi andare. Anch'io lo posso dire. Però è chiaro che sei un eroe. Esattamente adesso? Senza macchia. Siamo arrivando qua. Però dove siamo? Cioè, ci fermiamo, ci spostiamo. Allora, dove siamo? Praticamente è più sarà più o meno una di queste probabilmente questa baia. Cioè, noi ci mettiamo, ci infiliamo in una baia, costiamo, insomma, la baia è abbastanza protetta. No, la nave indietro. Allora, la nave, diciamo che può andare, può continuare a navigare, però ha subito comunque dei danni. Quindi ci fermiamo un attimo. Da quello che avete capito, e diciamo la paura del capitano è che è svoltato, diciamo, la punta lì della libecca. Lì ci sono comunque correnti molto più forti. Ah, ok. E venti più forti, quindi andare nelle condizioni attuali potrebbe essere molto pericoloso. Quindi un minimo di riparazione per arrivare in porto è necessario. E quindi tu proponi, se un uomo di mare saprai aiutare, assolutamente lo faccio con molto. Quindi una giornata va spesa per fare questa molto riparazione. Volentieri. Però prima bisogna scendere appunto con le scialuppe e recuperare sti tronchi. Bene, io mi propongo anche per tagliarlo la legna, insomma, sono abbastanza. Ah, praticamente siete due o tre gruppi e sarete pezzi particolari. Diciamo, vabbè, ci sono ovviamente dei marinai che vi diranno cosa bisogna fare. Però sì, diciamo, voi siete in una scialuppa. Sto capitano mi sto proprio sul cazzo. Voi cinque. Io è già la punizione del notario. Potendo usare la magia, mi metto tipo un barello in un angolo e dico, alla mia età non stai avanti così dentro. Io non ho le vie. Per ora siete cinque. No, l'umarello cos'è? No. Sulla scialuppa dietro la schiena. Siete voi cinque e tre marinai, diciamo, dell'equipaggio, okay. E poi vabbè, ci sono altre due scialuppe. Sono quelle che ci avevano incolpato per la pisciata? Non vi so. dove siamo? Com'è? Siamo in una zona No, per ora state arrivando praticamente alla spiaggia. La spiaggia è una spiaggia molto sassosa, con molti scogli, e effettivamente non avrebbe potuto attraccare lì. No, allora, la cosa curiosa in realtà qua è totalmente disabitato, cioè non ci sono villaggi o cose varie. Questo voi in linea di massimo lo sapete, perché la Libecca è un'isola che però non ha tanti porti in realtà. Questo non è più Saradovia, giusto? No, questo non è più Saradovia. E in realtà, diciamo che, per esempio, il porto dove voi andrete è un porto che è stato costruito dai saradoviensi quando avevano conquistato parte della Libecca. Perché in realtà i libeciani, di loro natura, in realtà non sono dei grandi commercianti o navigatori, perché vivevano più all'interno, in quanto molto esposti alle razzie dei saravi o degli altri popoli, diciamo, di vicino. Quindi in realtà le loro di base, le coste, non sono particolarmente popolate. Cioè, magari c'è qualche villaggio di pescatori, adesso ci sono dei porti, ma diciamo non è strano il fatto che andiate in un punto dove non c'è nessuno. No, puoi lanciare incantesimi che non abbiano. E questa appunto si chiama la baia delle piogge, viene chiamata perché spesso piove. La cosa positiva è che è molto verde, quindi diciamo di tronchi e cose varie ce ne sono. Anche se, secondo i marinai, purtroppo bisognerà penetrare un pochino nella foresta per trovare dei tronchi adatti al vostro lavoro. Okay. Però non vi preoccupate, perché loro vi guideranno e, diciamo, con voi, insieme a voi, diciamo, li taglierete e le recupererete. Quindi quello che fate di fatto è sbarcare su questa spiaggia e entrare nella foresta. Dopo un po' all'interno di questa foresta, trovano finalmente un punto buono e cominciate, diciamo, a tagliare gli alberi. È abbastanza fitta, sì, è molto fitta. E, è abbastanza, insomma. Percentuale di umidità? Percentuale di umidità, no, non eccessivamente alta. Anche perché non fa bene alle mie ossa. No, non è eccessivamente umido. Mettiamo l'antizanzare. Tenete presente che comunque le temperature adesso, nonostante sia estate, non sono caldissime, perché siamo comunque molto a nord. E così. E, mentre siete lì che lavorate, a un certo punto... Io apro il paese. Lavorate. Se ho in queste ore o in questi giorni delle pause, io faccio le mappe di queste isole, delle zone che visito. Okay. Ogni tanto te lo dico. Va bene. E quando nei tempi morti lo fa. D'accordo. Visto che il chierico ha un po' le mani di burro, ti consiglio di metterla nelle plastichine, se no ti rovescia l'acqua anche sulle mappe. Rega, ce la facciamo? Vabbè, non mi andate il tavolo. Vabbè. Grazie, hai ragione. Vorrei farlo dare come 2 su 4 giocatori al tavolo, il quinto non io sto facendo legna. Io sto facendo legna. Mi si era perfetto. Sai meglio di me. Sto selezionando gli incantesimi che non sto facendo un cazzo. Mi tirato Perception con svantaggio, a parte Salla che non sta facendo un cazzo. Con svantaggio? No, no, anche io svantaggio. Sto 21 e 20. Va bene. Quindi 20. E 15. 15. 6. Bel fumble che ritira e un 2. Cioè, sei quello che sta facendo meno e sei anche il più distratto. Hai maggior ragione. Il lavoro di Lumarelli è un lavoro sì. Quindi 15, 20, 6, catta, quanto hai fatto? 10. Il fumble che ho ritirato ha fatto 8. Quindi totale hai fatto? 8. Ok. Oh, wow. E... sei molto saggio. A parte in Giulio... a parte Giulio, vi rendete conto che praticamente la foresta sì. Intorno a voi, una parte della foresta intorno a voi, è viva. Di fatto sì, ha preso vita, è diventato che qualcosa di mostruoso. È veramente per, cui mi, per cui mi tirate iniziativa. E che cazzo? Così diretto da me. Sì, per voi avete notato, Giulio invece parteciperà al gioco. Ho fatto sì. Poco, 9. Ah no, destrezza la mia vita. Zero. Zero. Zero. Cosa? Uno meno uno. Allora, ho svantaggio anche qua? No, qua. Tutto vabbè, tutto. Allora io quindi, quindi ok. Scusatemi. Cosa sono dei tiri alti qua? Facciamo tutto qua. Allora, Laz, scusa. 9. 9. Sceo? 7. 7. Catta? 0. Scusa, ho fatto 1 meno 1. Ti prego, scrivi 0. Cioè Catta non gioca. Salla. E taglio la legna. Salla 10 e Giulio che vabbè, quando tira. In mezzo al combattimento vedi uno che continua a tagliare la legna. Ok. Quando è finito. Non so se le hai scritte, ho cambiato classe. Ma ascolta, visto che è foresta, se noi li uccidiamo vale come legna tagliata? Può essere. Voglio morire. Va bene. Questa mostruosità che è apparsa, cioè di fatto è una parte della foresta che è diventata viva. E vegeta. E vegeta. E siccome vedo un laser particolarmente simpatico, guarda che questa era la serratura di laser. Quindi ti becca con 2 attacchi. Che no, cos'è questa cosa? Aspetta, hai tirato la gente per colpire? Sì. Anche non ho sentito i dadi, sembrava un... apri il Kinder e ti becca per la battuta che hai fatto. Allora, ci poteva stare. Grazie che non sono 2 critici in te. No, devo stare un po' attenti. Conoscendo me. Tanto mi nascono dentro qualcuno adesso. Non un problema. Dipende. Dentro un altro. Intanto subisci 10 danni con un attacco. Ma che cos'è questa roba? È tipo un insieme di alberi che si muove. E 12 danni con l'altro. 22, quindi. Sì. E poi mi fai un tiro sulla costituzione. Come si fa? Quindi più 2? Sì, o con il... sì, più 2. No, 11. 11. Vieni praticamente avvinghiato da questo coso, che è questo. Cazzo. Shambling Mound o ammasso vegetale. Vedi, aspetta, scusami un attimo. Vedi, questo sei tu. Esatto, c'è cioè una persona ingolfata o comunque e tu sei quello. Stica. Stica. Ecco perché vediamo se riesci a nasconderti, perché adesso sono lì. Merrick. 9 punti mi mancano. Dopodiché e sta non a me. Stanno una catta. Come catta? No, non a catta. Ok. Sta a Salla. Non che abbiamo fatto tutti i tiri altissimi. Mi sono sentito bene. Un po' macello. Vabbè. Sta a me, già? Sì. Che figo. Mi sa che curo l'AS. L'AS è, in, è però ingolfato nel tipo. Cioè, vabbè, lasciami lì, vabbè, ma sono tirato su, dai. No, no, vabbè, ancora. Beh, ancora no, non è che... Vabbè, se vado sotto tiro, siete tutti lì. Dato nel senso che non arrivo a prenderlo. L'ultimo ladro che ha detto così. Da te non erano tutti lì. Io te lo dico. Cioè, non riesco a toccarlo. Vabbè, niente, faccio... Oddio, puoi provare, però mi sa che no, devi più che altro, fare come fosse un attacco a contatto. Più che altro dammi qualche bonus so per la prova a scappare. Però suona bene, vero? Però forse ti prendi un attacco... Eh sì, vabbè, sicuro. Se hai qualche bonus da, da castare sul tiro... Hai perso il microfono. Ah, l'AS, ispirazione bardica. Parla? Non si sente più. Non è necessariamente una brutta cosa. Non sappiamo se sei tu che parli piano oppure non so cosa sia successo. No. Ah, ok. Ispirazione bardica. Sì, comunque. Però si è abbassato il volume di un botto. Sì. Non ti sentiamo più. Non ti stiamo prendendo in giro, inutile che guardi così. È possibile che adesso ascoltiamo dal computer e non più dal microfono? Non è che qualcuno ha fatto un silence da qualche parte? No, penso che sia il suo il problema. No, no, dicevo, dicevo nella foresta. Non va bene, dopo Salla. Va bene, Salla fa ispirazione bardica, dopo Salla sta l'AS. Non ti sentiamo? Non so come funziona questa cosa. Allora, qua te devi fare... No, la, l'ispirazione, come funziona? Da? Mi sa cos'è? Che ti dà un vantaggio. Vantaggio? Dai, puoi tirare, tirare un dado in più, esatto. Ah, più sei, di sei, di sei. Sei in più. Sì, devi fare un tiro... Cos'è? O destrezza? No, in realtà sì, puoi usare adesso destrezza per liberarti. Parla, Salla. Tiro anche il D6 insieme. Sì. Allora, ok, a posto. 5 e 5, 10, 14 totale. 14, riesci a liberarti. Ok, questa era come azione, sì, tra virgolette attacco, quindi ho il movimento e la carrying, giusto? Hai, esatto, il movimento e l'azione bonus. Allora, la... Ma se non passiamo, sa che il D6 lo puoi tirare anche dopo. Ok. Gli è servito con la... sì. Devo disingaggiare o vale questo come azione di disingaggio? No, cioè, adesso tu sei di fianco a lui. Sì, ok, devi, allora uso la cunning per disingaggiare e mi muovo spostandomi indietro. Ok. E va bene. Dopo l'AS sta a Sheo. Ok, quindi situazione che nessuno è corpo a corpo con lui. Lo stiamo più o meno circondando, ci siamo tutti lì. Quindi puoi lanciare un incantesimo? Esatto! E boh, dai, direi di cominciare con un easy attacco normale. Vado di bastone più pugno, solito. Bastone allungati. Ecco, ancora meglio. Ah, intanto, cazzo, l'ho scritto. 15! Quindi, Sheo, fammi un tiro di conoscenza e intelligenza, intanto. Tu che sei un monaco e sai cose. 8. Okay. Sheo, 8. Questa cosa è verde. Non so dove sono tu. Ma non sei sicuro in quale verde? Ma cosa vedi? Che questa cosa sai che alcune foreste prendono vita e sono molto pericolose. A quanto pare ora lo vedo. Però non ti ricordi molto sulla loro natura. Natura. Però bisogna stare attenti al fatto che si può essere praticamente presi e assorbiti da questa cosa e morire schiacciati. Cioè, non l'ho imparato dagli studi del passato, ma l'ho imparato dai 6 secondi precedenti. Questo a 8 passi una classe di difficoltà very easy, quindi no, lo so, sì, lo so. Fondamentalmente sì. Va bene, tornando al tiro, 15 lo prendo. 15 lo prendo. E ti faccio 10 danni. Questo è un danno normale, giusto? Una bastonata. Ok. E poi faccio il secondo 10 attacco. 10 danni, giusto? Sì. Secondo attacco col pugno. 9, però direi che non lo prendo. 9 non lo prendi. Domanda, io il movimento... Cioè, nel senso, io non so quanto ero lontano da lui. Siete più o meno in zona. Cioè, volendo, ho ancora parte del mio movimento per provare, tipo in acrobazia, schivare un colpo e fare un passo indietro. Cioè, allontanarmi. Puoi fare questa cosa come azione tua? Ah, no, ho già fatto l'azione bonus, però. Non posso fare una conversione bonus per caso? Se hai già usato l'azione bonus, no, cioè questa roba che cos'è? Un'azione bonus che puoi fare tu? No. Ah, è una roba extra punto. Che mi stai inventando. Sì, per finire il mio movimento, intendevo. Non so se l'ho usato tutto, io no, perché tu comunque, cioè, ti puoi muovere, però poi ti becchi l'attacco di opportunità se non disingaggi. Però se provo un'acrobazia per evitarlo? Non c'è più. Non c'è. Non esiste più questa cosa? No. No. Ok. Quindi dice, se vuoi muoverti, puoi muoverti. È l'azione di disingaggio. Ah, il disingaggio, giusto. Quindi è un'azione, infatti. Sì. Ok, allora niente, rimango dove sono. Va bene, però... Sì? Ma sei il monaco, non puoi legnare con un maiale. Ha legnato. Ho legnato, ha fatto 10 danni con un colpo. Wow. Ma è il monaco, quando mai il monaco ha legnato? Beh, quello. Sì. Mi potresti dire... Ah, quella meglio se la catta. La catta. Allora, già. Quando noi abbiamo detto, ci manca un picchiatore serio o un caster serio? Catta, sta a te. Non sta nel tuo zero. Sguaino la mia lama e lo taglio a fette. Così, vuoi controllare quanti anni ha? Esatto, 14. Non vi aspettavate subito il combattimento? 14 non ride, mi dispiace, però mi piacciono, sappilo. Tanto continuano lo stesso. Sì, anche se loro si arrabbiano. No, ma in realtà da lì è finito. Un altro set. Va bene, sì, Giulio è sorpreso, sta... Ah, ci sono anche i cosi, però. Beh, esatto. Quelli sono rimasti sorpresi. Esatto. E sta lui, che vede Catta lì, e prova a colpirlo. Grazie. Ma lo colpisce solo una volta. Un critico. E gli fa... 15 danni. Quanti? 15. 12. Domanda. Sì. E dopodiché un punto chi per effettuare due colpi disarmati con azione bonus. Sì. Però se io ho già fatto il colpo con bastone e un colpo disarmato è già la mia. Ma fai anche per colpire la cosa su muoverti, slash per tutto messo dentro ti muovevi, quindi mi muovevo verso loro, avevo detto fatto con bastone e un colpo. No, non mi sono, avevo il movimento e basta, no. Secondaria che è una. Vabbè, non ti devi muovere di tanto. Se faccio questo diventano due, semplicemente colpi disarmati anziché uno. 6 9. Ma sei altro per fare danni fai? No, perché poi posso fare anche 13 punti per questo, vedi, perché okay. Però immaginavo fosse l'azione bonus. Allora non fai. E poi posso fare sempre come azione. Questa come azione, sì, come sempre come azione bonus. Ok. Poi basta. Basta. Questa è la salla, sta l'as. Ok, attacco anch'io. Il fatto è che sì, la cosa che il secondo attacco per me è l'attacco di l'azione secondo bonus, con il limite 8. No? Avrebbe senso che fosse libero. Mi riallontano. Per un monaco. E no, quindi usi disingaggio come bonus e riallontani. Sì. Fai pochi. E sta a Sceo. Sì. Faccio... Gli do un'altra bastonata. Provo. 20. Sì. 20 totale. Preso. Sì. Mi faccio 9 danni e poi uso un punto ki come azione bonus, sì. Anche che un colpo disarmato gliene faccio 2. Quindi scusa, prima gli hai fatto 9 danni? Esatto, e adesso gli faccio 2, gli do 2 punti. Sì. Chi? Il primo chi? È 21, quindi direi che prendo. Sì. Scusa, non faccio danni, Bardo? Sì. Si prepara giù. Non ho mica detto che non fai danni. 6 danni e l'altro pugno. Cazzo, è un fumble. Vedi? Perché ho voluto usare le tabelle? Sei come sarebbe divertentissimo, sì. Va bene. Ho usato il punto per fare un fumble. Sta a Giulio se non hai altro da fare. No, ho già usato. Tu sei in corpo a corpo. Cioè, sono corpo, sono a corpo a corpo, catta e Sceo. E sì. Sia, scusatemi. Sì, ero poco più lontano. Qui. Sono lì. Vai, Rian. Boh, mi avvicino e casto infliggi ferite. Oh, no. Come? Mi casto infliggi ferite. Ok, che danno è? Faccio necrotico. Bene. Se devo fare un tiro con il capo a corpo. Però usi per colpire comunque la tua vita. Sì, merda, guarda. mi avvicino. 12. 12 non colpisce. Ho speso il punto da fare un fan. Va bene. Un paio di marinai si entrano in questa rissa. Oh. Ma non sono fatto l'incantesimo, non sono fatto. Sala niente da dire riguardo a questo. Uno invece penso va indietro. Sì. Vabbè, logico, era lì con noi, dai, in effetti. Per cercare aiuto. È abbastanza ovvio. E capta. Allora. Io almeno un turno glielo farei saltare, ha fatto zero l'iniziativa. Esatto. Mi pronuncio il giuramento di inimicizia. Tu non sei più un amico. Esatto. Spesso abusiamo. Domanda, lui deve capire quello che dici? No, sono io che devo capire quello che dico a lui. E non è scontato. Allora fai un tiro su intelligenza. Penso sia attaccata e la sua divinità sta roba. Sì. Esatto. Non c'entra niente il tipo. Quindi Giulio deve capire cosa dici. Esatto. Allora tiri con svantaggio. Per uso il mio incanalare divinità e per un minuto vantaggio agli attacchi che faccio contro di lui. Master non c'è, però è interessante. Grazie. Scusa, Kanta, hai vantaggio per un minuto agli attacchi, ma durerà meno contro di lui. 10 turni sono. Mi puoi aprire? Porca troia! Ha suonato? Sì, è 7, ma potete comunque ha suonato. Quanto hai fatto, scusate? Non fatto mi 13. 13 non funziona. Ho detto troppe tutte insieme. Però secondo me vuoi 14 o 15. Quindi non ho capito, 13 non colpisce. Ho mancato, nonostante avessi vantaggio. Questo era Katta. Vabbè, però non è stato un fumble. Se lui capisce che Katta non è un pericolo. E allora va a Seo. No, ma capisci. Non ha tutti i torti. Sì, qual è la tua classe armatura, Seo? 17. Cazzo, ma sarete altissimo. Però uno ti colpisce. Sono avete tutti alti. Vabbè, 18 in destra. 11 danni a anch'io sono. Sono avete altissima. 11 danni a scemo. Risposta. 11 danni a scemo. Ok, rega, sono a 1. Lui no, ha recuperato tutto. Ah, scusa. Gli hai tolti prima. È vero, me lo scordavo. Sì, ve li ho tolti così. Scusa, 11. Quindi 23. Vabbè, facciamo morire di nuovo, dai. Allora, sta a Las. No, sta a Salla. Che hai capito? Vabbè, io ho subito poco per ora, quindi no. Ho 2/3 della mia vita. È ferito. Mi ho subito 12. Quanti? 12 su 41. 41? Per costituire? Faccio Dissonant Whisper su quella merda. Cosa gli fai? Fare un tiro salvezza su Wisdom. Mm-hmm. Sì. CD? 14. Non passa. Allora si prende 3 di 6 di danno. Ma devi capire che cosa danno dice. È? Ok. Che danno è? È un danno psichico. Ok. Psichico. 5, 9, 12 danni. Ok. E poi deve usare immediatamente la sua reazione per muoversi più lontano possibile da me. Da te. Che però non andando in cose pericolose. Che vuol dire? Che si becca l'attacco di opportunità, no? Se c'è un burrone non si butta in burrone. Però si prende l'attacco di opportunità da quegli altri. Non è scritto, se vuoi leggerlo è a pagina 214 digitale, 234... Beh, lui potrebbe usare la sua reazione per disingaggiare. No, la sua reazione non potrebbe... In realtà no, non potrebbe, però non lo so. Se lui si sposta subisce danni, quindi in teoria è pericoloso. Aspetta, la sua reazione però non credo che, cioè credo che non vada verso il pericolo, non che non scappi dal pericolo, però leggi. No, vabbè, immagino che sia così. Ma se sarebbe so c'è la carta non vuole devo fare the speed allora away from you, questo sta dicendo. Tanto falliscono gli attacchi, faglieli fare, dai. Se faccio un favore, il secondo attacco è per lui. Tanto fallisce. Sinceramente non lo so. Sì, dice che usa la sua reazione per muoversi lontano, più lontano possibile da... Cioè, in sostanza scappa spaventato. In sostanza tu lo spaventi e scappa. Sì. Però aspetta un attimo. Non, non io, la, lo, il rumore che faccio, però sì. Cosa fai? Cazzo, è una gran plana. Era quello che avevo fatto prima. Esatto. Ah, si sa che rumore fai, per curiosità. Ma lo sentiamo anche noi, soprattutto. No. Vabbè, ok. Quindi si prendeva sei attacchi di opportunità. Io non sono in corpo a corpo. Io ricatta. Quindi non lo so come si fa. Io ricatta. Tu sei in corpo a corpo? Sì, ho fatto un po' di ferito. Sì, di voi tre. E i marinai. E il ballo tutto andato OP, eh? Che non prego. Allora, 17. Preso. 21. Preso. Qua. Allora, piano, fermi tutti. In ordine, prima Sceo. Sai i danni. Attacco. Poi Giulio. Nel quale ho vantaggio. Sì. Oh, cazzo. 23. Per quanto tempo va a scappa via? No, solo la sua reazione. Cioè, fa tipo uno scatto indietro. Non so. 8 danni. Ok, 5. Carta. Ha fatto 17. No, 6 danni. Non colpisce. Ma hai colpito? 23. 17. Okay. Danni. 6 danni? Sì. Ok. Molto bene. E questo era il turno di Salla. Ora sta a Eric. Colpisco. È più lontano, eh? Quanto è andato via? Il suo movimento più lontano possibile da lui. No, no, cioè fa solo la reazione, quindi sì, un movimento indietro. Quindi la sua velocità. Sì. Va bene, è comunque portata per te. Ok, adesso. Vado. Cioè ci devi andare in conto. 24. Totale. 24 colpisci. Però non hai l'attacco furtivo. Perché non è ingaggiato. Adesso. Giustamente. Te, sì. Non sei nascosto, no, ci sono nascosto. Sono 5 danni. Mi ha fatto abbastanza danni. Rimani lì? Dipende quanto è ancora. Non so se mi. Devo disengaggiare da lì o lui sta ancora andando via. Il movimento direi che l'hai completato. E solo la puoi bonusare con disingaggio. Ok, sì. Disingaggio. Sì, sì, era per capire quello. Da chi disingaggi che non hai nessuno in corpo a corpo? No, mi allontano senza dargli l'opportunità. In corpo a corpo. Insomma, descrivilo come vuoi. No, è in corpo a corpo da solo con il. Ah, perché adesso tocca al coso. No, tocca a voi adesso, io sono dopo di lui. Perché sei andato in corpo a corpo? Ah, sei andato in corpo a corpo, sì. Non hai sparato. No. Ah, dopo okay. Eric, che aveva capito che viaggiava. No. Bene. Anch'io. Sta a Sirro. Fa più danno. Potenzialmente. Niente, gli vado di nuovo. Devo pensare, sì. Dopo Sirro si prepara. Due a svantaggio. Ma solo contro di me o contro tutti? Sicuro. Quindi cioè, chi è che mi ha salvato? Intanto la bastonata 9 non prendo, no. E uso di nuovo un punto chi per dargli due colpi anziché no, uno. 9 danni. 15. 15 colpisci e gli faccio 6 danni. Io adesso ne ho 29 e con l'ultimo colpo 16 di danni. Scusa, colpisco, conti così. E gli faccio altri 5 danni. Quanti ferita hai? 23 su 34. 63. Allora, dovevi dirlo, è vero, è scappato. Vabbè, ma magari non tutti l'hanno notato. Sì, no. E dopo Sirron. Dopo Sirron sta a Sirron, sai, presente Jack Norris, ecco, giralo. Oh mio Dio. Ti è tipo cioè se, non è che se non c'è è stupido. Sai com'è? Quando devi fare un personaggio in fretta è venuto una settimana e non sai quanto ti durerà. Esatto, ti dai il nome esatto, quando più tempo ci metti a prepararlo, meno tempo durerà. Ho imparato questa lezione. Quando è bello costruirsi il proprio personaggio con cura, ma tanto sai che i tuoi muoiono come mosche e quindi chi se ne frega. Delle mosche. Cosa? Non hai anche senso. Giulio? È da falso. A me? Sì. Ok. Allora. Mi sa che... non posso far tanto perché mi tengo a fare golf. Beh, che taglia è questo qua? Faccio hide. Lui penso che sia large. Faccio Aida, vedete grossone. Tutti. Ah no, aspetta. Ken corpo a corpo. Quindi Laz, Sheo e anche. Ma tu no. Vabbè, anche Katta. È a distanza, immagino. Una creatura. Ok, posto. Tanto sceglie lui. Fino a tre creature, ne ho scelgo voi tre. Ah, sì. Cosa fa? Scusami. Avete 5 punti per tempo. Ah, buono. Sì. No, pensavo adesso che eri corpo a corpo, se si chiede. Va bene. Esistivo da fare. Per 8 ore. Cioè avete anche oltre il massimo. Oltre il caso. Massimo. Ok. C'è già lo spazio apposta. Cazzo, è vero! 8 hai detto. Vai. I due marinai sono andati all'assalto. Purtroppo sì. Stavo per sta non... a Quakeheart. Oh. Vai. Vediamo di che pasta è fatto. Durissimo. Per te. 17. No, hai preso. Più 7, buono il tiro col tiro anche tu, dai. È come quello che abbiamo tutti, 10 danni. Beh, non è detto. Cioè abbiamo il 18. Ma sì. Vabbè, livello 4 si spera. 10 danni. Vabbè, infatti ho preso 2 punti nella abilità, nella caratteristica migliore, basta. Fatto, giusto? Sì, sì. D'accordo. Tu, Laz, di fatto sei lì. Sono disingaggiato. Sì. Quindi lui può attaccare. Beh, cambiamo. Sì. Ma? E lo fa. Speravo ci fosse il ma. Allora, tocca essere matura? 15. Quindi ti becca tutte e due e uno è anche un critico. Oh, eccolo! Questo è il pezzo che conosciamo! Ma hai detto? Sta a vedere allora, che 5 punti... Vabbè, per fortuna è capitato al tank! Vediamo il critico come va. Ma hai cambiato i dadi? Sa che Laz... sì, Ragazzi, non fate il ladro! Non fate il ladro! Basta, Ne ho 25. Se ne fate più di 25, sono giù. Direi di sì, aspetta 11. Ma 25 con 5. No, sono 25 precisi. Quindi sei a cazzo. 0. No, aspetta. Hai contati solo i 5? No, ne ho 26. Ne rimane uno. Però arriva il secondo. Quindi. E quindi niente, quelle sono altre 12 danni, quindi vai giù. Ok, va bene. Ora sta a... No, Harry... So come ci si Lui ti potrebbe anche prendere su di sé e tenersi in mano. Non è come quello e... del cadavere. Sta a... scusate. Sta a... Cave. E quanto è lontano là? Sono... Beh, ne avevo 27 in realtà. Però a più o meno 30 piedi da te, direi. Lui è andato via al massimo che era 20 piedi da te. Tu eri distante da lui, non eri corpo a corpo. Credo che la faccia sia perché piedi erano quindi 9 metri. No, anche lui ha 25. Dovremmo giocare con le mappe. No, però roll direi 20, che ha senso che sia così invece. Roll 20. No, raga, le mappe no. Ah, per sì, giocare. Il 20 è carino, ma ci vuole un po' di briga per tenerci. Abbiamo noi il cattabriga! Mi avvicino e rifaccio la magia che ho fatto prima. Ok, quindi cos'è? Ora sei a 5 piedi da lui. Quello del più 6? Sì, 5 piedi da lui. Si spaventa e scappa. Devi fare un tiro salvezza su... Ah no, su di lui. Su saggezza. Wisdom, 14, sono andato al passo di secondo livello. 14 è la classe di difficoltà? Sì. Però ti cambia il salve. Non lo passa. Mentre magari la durata. Tanto faccio un tiro di merda. Cioè, la durata è sempre fisso. Scappa via, quindi. Rifà quella roba di prima e si piglia anche dei buonissimi... Psichici. 16 danni. Psichici. No, sono... Sì, psichici. Ok. E quindi deve scappare. E si prende attacco di opportunità da parte di Quake. Ha usato da chi ha usato la chi non ha usato la reazione? Anche lui. Tu hai usato la reazione. Scusa, l'attacco di opportunità è una reazione. Esatto, tu non hai usato, la reazione, sì, per fare il doppio attacco. La reazione bonus, non la reazione. Ho usato la reazione bonus. Ok, posto. Sì, mi sa che non l'ha usata nessuno. Va bene, va bene, va bene. Quindi attacca prima Sirro. No, io non sono incorporato. Ah, come è scappato, io non mi sono rinvenuto. Oh, hai visto come si tira? Vai. 19 di dado. Sì, sì, quanti danni? Vabbè, 5. Vabbè, meglio che il contrario. 22. Sì. Comunque sono fratelli questi dadi, sempre più o meno uguale. Esatto. Vantaggio o svantaggio non cambia perché fai i tiri qua. Buono. 9 danni. 9 danni. Sì, mi fanno 14. Bravi. E lui va via. Ora. Devo fare il tiro. Sì. Sopra di Ezera. R mi fa il tiro. Non ce l'ho, non lo aggiungo neanche, ho fatto 4. 4 ti segni un punto. Morte. Sì. Dov'è che vanno? Beh, ma adesso sono sei di qua. No, no, lo curo io adesso. Sta a me. Allora, vediamo chi di voi farà prima. Ma chiunque di noi. Sirro, sta a te. Chiunque di noi può curare. Come si dice? Stabilizzarlo. Sì. Ma prova di medicina. Chi se ne frega, Sirro, ma Sirro, sta a te. Sirro, sta a te. Fai quello che non ti dico. Vabbè, urlo, pensate a. Non c'è bisogno che tu la dica! Vabbè. Anche perché sei muto, oltre che sordo. Muto! Cieco, soprattutto. Cieco! Vabbè, allora torno a legnarlo. Ma rimane molto. Torno a legnarlo. 17. E sono... Beh, migliore. 6 danni. E sì. Poi... Sì, dai, uso... Cazzo. Uso un altro punto key per dargli altri due colpi. Chi? Chi? Lo devi dire ogni volta! Sai che forse non la stia. Cazzo, 13. Vaffanculo. Vaffanculo. Un altro colpo, ho dato tutto qui apposta. Sì, 17 di dado. Attenzione, non la stito, non la stito. Ma conoscete i tuoi tiri. Mm-hmm. Attenzione. Un danno. Attenzione, è caduto. Suspense aumenta. Oh, ci sono 7 danni. Non lo lascio. Cazzo, ne avrà 8. E. Sta a Arian. Poggio. Quella coraggiosa che legge il trattato finlandese mentre ascolta noi. Bella, bella voglia. Poggio le mani sul ascoltare noi o le teatro finlandese? Che è la Giulia. Ascoltare noi. Che è la Giulia. Poggio le mani sul torace di Eric e gli faccio un curacolito. Di secondo livello. Eh sì, perché... 11 più 4, 15, 23. Devo contare anche quelli con cui ero sotto. Ma vorrei far notare che è l'unica che ci seguiva che anche dalla Finlandia. Scusami, quanto hai fatto, Giulio? 15. Ah, no, sì, sono qui. Io. Tanto coraggio. Sì, sono... Va bene. Ora sta a Quakeheart. Oh, è proprio l'ora di fare un bel fuoco da campo. E mi serve la legna. Cosa fai? Lo attacco. Ancora dai, un pedestallone. 20 per colpire. Sì, ma è un attacco normale questo. Sì. Tu. Okay. 9 danni. Va bene. Ho attaccato. No, perché mi viene. Il mostro, il mostro cade. Perfetta tradizione. Il mostro, diciamo, cade a terra per quel che può nella vegetazione. Iniziale. E diciamo si secca. Mentre si l'hai seccato. E diventa una specie di arbusto di gigantesco insieme di arbusto. Se le va a cercare. Era notevole anche no, no, farò come Ema. Va anche detto che tu sei a terra, amore. Non è vero, mi ha curato. Posso parlare? Giulio, hai la possibilità di dare il colpo di grazia là. Thunderwave! Che potrebbe darti di dimenticato di tagliargli il dito prima di curarlo. Potrebbe non funzionare, aspetta che... Giulio, vado la questa dita, siamo tutti completamente no, bene. Invece faccio un test di medicina. Qualcuno dei cosi è schiattato. C'è un test di chirurgia. In realtà, paradossalmente sì. No. No, sono tutti felici. Faccio un test di chirurgia. Tutti sono molto spaventati, ma si complimentano con voi per la vostra forza. E due. Allora ne uccido uno per fare un test di medicina. E due. Cosa due? Due volte saliamo il culo con la gente. Io ragazzi, vado a vedere la roba insecchita perché sono curioso. Non l'ho mai vista, voglio vedere da vicino per bene. Sì. È risecchito. No, guardo per un po', tipo, è come se fossero degli arbusti, un messo a massimo. Ma non è una faccia, quindi no. Non ho visto bene il primo. In realtà, tipo, una parte sono come delle fauci. Mm. Che effettivamente, cioè, ora che tu sai dove, dove erano, lo riesci a vedere che sono effettivamente le fauci. Se no, non c'è, se no, no, no, anche prima, però. Diciamo, visto così da, da lontano, non ci faresti caso. Bene, io dico, bruciamo questo affronto alle leggi della natura. Che altro io combatto con, non combatto con l'arco. Con... lo so, mi sarebbe messa con questo. Ma dicono, assolutamente come volete, però magari prima prendiamo i tronchi prima di bruciare tutto quello che dobbiamo utilizzare. Sì. Facciamo un fuoco da una parte, non è che... Ci sta, ci sta. Beh, è molto grande, quindi ovviamente se fate un fuoco diventa pericoloso. Allora io mi avvicino a un pirata. Cioè, potete farlo, ma magari se volete prendere i tronchi è meglio prima prendere i tronchi. No, un pirata. I tizi che ci hanno aiutato erano armati? Hanno combattuto con le asce che avevano per tagliare i tronchi. E non addestrati. Beh, quale arma migliore per combattere un albero? Un albero... Un arco, no. Vedi? Un arco. Un arco. Qualcuno di voi ha un arco? Io. Eric ha un arco. Cosa vuol dire? È una roba per... Lo nascondo. Vabbè. Abbiamo già tagliato abbastanza tronchi. Ora mi fate una prova di survival. Per vedere la velocità con cui tagliate questi tronchi. 7. Culo. Oh, 4 anni. 6. Mi stavo vantando. C'è un culo. Anche io forse. Ma no, è resistenza. Cazzo, l'hai già tirato. Mannaggia. 3. Il monaco è quello più veloce. Sì, tu invece non fai nulla, giusto? No, gli do fastidio. Vabbè, gli do fastidio. Dicono, ok, certo, tu sei un grande leggendario, però potresti darci una mano. Vabbè. E voi dicono, certo, siete dei grandissimi combattenti, come a tagliare alberi un po' meno, ma vabbè, l'importante è riuscire a fare. Di solito uso un martello o una lancia. Lui sa piantare chiodi. Sì, vedi, praticamente gli altri, tipo, cioè Giulio, tipo, con la sua lancia comincia a colpire tipo un albero e gli dicono: no, guarda che non sbaglierai molto, ma Giulio non vuole ascoltare, dice: no, come fa? Batte per terra. Mentre tipo Laz tipo si aggrappa a un albero sperando che il suo peso, che è quello di un halfling, lo porti giù. Tiro io, vai. Io. Cabe, tu quando ti metti a lavorare invece riesci a aumentare nettamente il ritmo di... Ah, e dicono, ah, vedi Cabe, sei bravo, sei bravo con le seghe. D'altra parte, durante la guerra, tu hai proprio combattuto tra la foresta, quindi è ovvio che sei molto... Anche non ci ho capito, volevo fare anche shot. Pintavo nella foresta. Era un lavoro che svolgevo. Per abbattere gli alberi. Facevi il cacciatore. Non le altre cose facevo anche quello. No, direi. Facevi il cacciatore. Ok, ci ho provato. E oggi sarebbe stato utilissimo. Sì, ma facevi il cacciatore. Ti darei il vantaggio se fosse stata caccia. Non tagliarla. Magari era un albero di acacia. Sì, invece l'ascro, come vedete, che è lì che prima prende una busta e dice: io ce l'ho, possiamo riparare tutto. Va bene, dopo allora possiamo fare a pezzetti la bestia, usarla per riparare, così magari mi prende vita. Quando mi hanno andato via, gli dicono: vabbè, se mastro... Qual è il suo nome? Scusi. Non so, una domanda. Sì. Arian. Ah, Mastro Arian, se lei vuole dare fuoco, come aveva detto, sì, noi abbiamo completato. Forse è una domanda. Okay. È una roba. Dimmi. Come si chiama il nemico che abbiamo ucciso? Allora, si chiama Shambling Mound. Grazie. La traduzione credo che sia tipo ammasso vegetale. Va bene così, ma mi serve un'immagine. S.H. Humbling Mound. Vuoi dare fuoco con me? Volentieri. No, devo fare un disegno in cui mangia l'asino. Aspetta. Direi di piazzarlo verso la scritta. Ho letto abbastanza in Thai per sapere dove va a finire. Cosa mi frega? Cioè, tu me lo dici. Ho capito, gli ho fatto il disegno e mi fa... Ok, sto catastrofando per dar fuoco. Ecco, ti ho mandato il logo. No, prima di tutto dico, magari lo spostiamo un po' più verso la spiaggia per evitare... Su Thunder, quindi lo vedrà anche Arch, che cazzo vuol dire? Sembra grosso. Adesso Arce sta giocando, metti in due. Quanto sarà? No, prendi anche l'ollo. Da spostare è una roba impossibile, no? Troppo da secchi. Diciamo che... No, non è una roba impossibile, no, ti spiego, ma è una roba faticosa. Tra nella vegetazione. Ah, ok, no. Perché la mia idea era spostare un po' più verso la spiaggia per evitare di dare fuoco a tutta la foresta inutilmente. Però se è una roba faticosa... Ma ti fai troppi problemi, dagli fuoco. Tanto andiamo via. Faticosa per il tempo, non mi interessa. Diciamo che ogni tanto qui passa un po' di pioggerella, può essere che faccia più fumo che altro. Diciamo che sì, cioè i marinai ovviamente rispettano questo vostro voler... dargli fuoco, perché tutto sommato si fidano di voi sul fatto che, diciamo, possa essere una cosa positiva distruggere, visto che finora hanno anche combattuto gente che tornava in vita. Ma se è una roba da perdi tempo, almeno non lascia perdere. Se è una roba easy, la si faceva di spostarlo un attimo. Diciamo che è più facile se lo diate fuoco qua. Allora, quello sicuramente. Con cosa gli diamo? Un torcio. Non so, tutto mezzo umido e bagnato, però non so se piglia fuoco, non abbiamo delle cose infiammabili. Noi ha dell'olio, l'abbiamo usato tutti per bruciare il corpo di scemo. Cosa infiammabile, un ammasso di felci e vegetali. Insomma, c'è vabbè, la balla delle piogge. Ok, non gli daremo fuoco, ci penserò io, ora allontanatevi in quella direzione. Ma la balla delle piogge, vabbè, se piglia fuoco, beh. Una volta non ci avrebbe neanche avvisato. È vero, sta diventando fuoco, ci starò mollendo. Lo scemo in mezzo alla fabbrica di carta. E se avessimo solo qualcosa di più. No, vabbè, nel senso, si chiama la valle delle piogge. No, a parte tutto, nessuno ha dell'olio di lanterna. No. Vabbè. Non abbiamo preso una lanterna schermabile l'altra volta. Non daremo fuoco a questo oggetto. Non abbiamo una lanterna schermabile. Solo che devi incantesimo di fuoco. No, io faccio Thunder. E infatti adesso farò questo. Lo sbriciolo in pezzi. Ci sta. Thunder che danno è? No, non faccio. No, tuon. Light. Sonoro. No, sonoro. Sonoro. Ma comunque. Sonoro. Sì, Thunder. Cioè, li costringi ad ascoltare i sonoro. Che direi che è piuttosto un danno. Ma comunque. Quindi, i miei supererebbero comunque eventuali resistenze. Perché ho preso un talento. Ma non gli faccio Thunder Wave, non faccio l'altro. Di secondo livello. Comunque voi avete delle torce, quindi potete dare fuoco. No, ormai ho scelto. Cioè, mi siete fatto un problema che non sussiste. Sì, una volta che siamo allontanati un po'. Cioè, loro sono allontanati un po'. Beh, anch'io. Vabbè, ma non tanto, sì. Bastano tipo 15 piedi. Cioè, ok. Atterraggio di 10 piedi. Quanti siamo, ragazzi? Arriviamo? Faccio Shatter. Quindi tutte le cose... dentro un raggio di 10 piedi centrato sulla cosa, sull'albero, beccano 3 di 8 danni. Sarà che nel farlo starnutisce, ok, e quindi sbaglia la mira e becca la fascia. E già che ci sono lo massimizzo. È una cosa che fa molto rumore. Sì. Così attiri gli altri, okay, alberi. Tutti voi, tranne Giulio, no, mi fate un tiro salvezza sulla destrezza. Oh, mio Dio. Riflesso, destrezza. 15. Ho più 6 e faccio 7. Vediamo se lo capisci da solo. 7 destrezza, sì. Salvezza, quindi la proficiency. Sì. Ah, aspetta. Ah, allora 17. 17, 7, 10, K 6. 6. Ok. Cosa succede nel catta? Cattaceo e uno dei marinai, praticamente la legna che state trasportando vi cade e diciamo lui sta trasportando questi legni grossi e quindi cadono un po' a tutti e cominciano a rotolare e niente, la rallenta un po' il lavoro e molti marinai dicono: che cazzo è stato? È un buono. Si prepara una tempesta, ma una tempesta. Vabbè, ti allontanatevi un po' che faccio. Vabbè, tranquilli, solo. Vabbè, no, sì, non diciamo che già voi non lo sapete, onestamente. È una tempesta. No, lui che ce l'ha detto, allontanatevi che faccio qualcosa. Lui ha detto allontanatevi, sì, però poi è venuto con voi, di fatto, quindi. Cioè, tipo, vediamo lui tipo che fa così e dice qualcosa e poi succede. Sì, ma in realtà penso che lui sia lì così e poi a un certo punto ti dice questa cosa e tutti è Giulio. Che c'è, normale? Che è normale? E... va bene, andate sulla spiaggia e sull'altra, sulla spiaggia ci sono già gli altri marinai che stanno tagliando. Sai che ora partirà? Possiamo fare un riposo breve? No, un riposo lungo. No, arrivati i marinai dicono: ah, ci avete messo un bel po' con questi tronchi. Comunque, vabbè, dai, mettetevi a lavorare. E niente, dopo un po' lavorate. Vabbè, nessuno dice cosa abbiamo fatto. No, non abbiamo solo raccolto dei tronchi. Cioè. Dicono i marinai lì, dicono: beh, abbiamo avuto un po' di problemi. Una strana creatura ci ha attaccato, ma devo dire che loro sono stati molto bravi a proteggerci. Certo, non sono stati così efficienti come taglialegna, ma se non avessimo avuto con noi, probabilmente non ce l'avremmo fatta. Possiamo tornare a prendere altri due tronchi da soli con voi, marinai. Così, esatto. Noi abbiamo fatto il plauso, invece. Sì, sì, gli facciamo vedere che c'è tempo. Come taglialegna siete stati pessimi, a parte che sono di fatto. Nessuno di quelli era nella lista, vero? No, no, l'ho chiesto al ministro. Ah, non ho capito, però c'è tipo gli abbiamo fatto. Di questi tre qui, no. Degli altri, un paio sì. Cioè, erano più preoccupati della legna che della loro vita, saperlo. Esatto. No, no, loro invece vi hanno fatto grande applauso. Però diciamo che comunque cioè loro sono già a buon punto quando voi arrivate, di fatto. Capito, sì, sì. E vabbè, quindi fate tutto questo lavoro, vi danno un po' una mano, siete un po' in ritardo, e ritornate sulla nave, dove vengono fatte durante la giornata un po' di riparazione alla buona, e poi il giorno dopo, di fatto, ripartite da questa baia. E vi date la mappa. Ecco qua. Quindi scherzi a parte. Vabbè, io ogni tanto, sì. Senza, mentre riparano, senza dar troppo nell'occhio, passo e lancio mending, country. Lancio qualcuno giù da... che ne so, riparo questo incantesimo, no, ripara una singola rottura o crepa in un oggetto. Quindi vabbè, quindi se tipo c'è una crepa, di fatto tu vai, ti offri comunque di dare una mano per la riparazione e fai questi incantesimi senza ovviamente farti sgamare più di tanto. Beh, i marinai che lavorano con te apprezzano molto la tua capacità e rimangono stupiti dalla tua abilità nel sistemare certe cose. Soprattutto visto che come taglia legna, non scherzo, no, quelli che lavorano con te non lo sanno questa cosa. Allora, direi che più o meno dopo 7-8 giorni, perché si cerca di andare abbastanza piano. Quindi recupero i punti feriti. Sì, recuperate tutto. 7-8 giorni. Io in questi giorni, se posso, sì. Chiedo se lui mi presta un ventino. Ah, facciamo una cosa in questi giorni. Show, tirami un dado... Perde tutte le buone d'oro. Tipico di Sceo. Una delle notti prima di rientrare, di arrivare al porto. Bagni il letto. Praticamente bagni la maca. E abbiamo capito chi ha pisciato nella vasca. Senti questa... Ma sono a maca a castello. Senti qualcosa dentro di te. Senti qualcosa dentro di te che cambia. E la forma e il colore. Sai bene cos'è, ma non riesci a in qualche modo, nessun modo a controllarlo. Era un po' che non si manifestava, ma non riesci in nessun modo a controllarlo. Serrata. E è notte, quindi state tutti dormendo. Ma tu hai una grandissima necessità e voglia di vendicarti di quella merda di Anolia. Che sai bene dove si trova. È nella sua cabina. Allora, vabbè, mi alzo, prendo il bastone e vado verso la cabina. Fai qualche stealth o... Ma è esattamente come è strutturato. Cioè, siete nelle amache lì che stai dormendo. Tu praticamente ti sei svegliato perché... perché queste tempeste, eccetera, ti davano fastidio, non riuscivi bene a dormire e improvvisamente... No, ma come sono strutturati? Cioè, tipo... Non noi, so che siete tipo camerata le sue, tipo di fianco alla stanza del capitano, per dire roba del genere. O allora, praticamente c'è il castello di... Comunque, ovviamente, dalla mia stanza non è che mi riesco, cioè faccio più. Pianta sei tu, ma no? Che mi dici che fai stealth e fai il tiri stealth. Esatto. Allora, ti spiego. Cosa gli vuoi fare? Ma dormendo e poi lo scolto. Vabbè. Tu non lo sai che sto venendo da te. No, non lo sai. No, no. No, no. Sì, in realtà qua è una controfigura. Lui sta arrivando a Marsiglia. È ferito. Se io facessi tutto per il mio. Guarda che c'è uno dietro quella tenda rossa. Guarda bene. Questa tenda da David Lynch. Beh, non è una nave bellissima. Direi proprio di no. Direi anche la studiaci più adesso. Sto aspetta. Aspetta, adesso si chiama. Ah, ok. Beh, vabbè, ci sta. Cioè, loro non sono. Adesso non lo rinforzo. Però non si lascia la cosa che guarda per un po'. Mi piace. Allora, tu sai. Che... Arrivo, lo apro un attimo. Sì, tranquillo. Direi che non è una cosa. Vabbè, sì, non sta a fare i dettagliissimi, era giusto per. Ma è uguale. In che zona della nave sì, ma dietro. Chi c'è intorno. Ma non è realistico visto che io non avevo fallito la percezione, lo vedrei. Se lo vedi. Non è bellissima come nave, magari, ma in linea di massima. Qua tu, cioè, diciamo la scaletta che porta sotto da voi. Okay. Questo è il castello di Poppa, okay, visto diciamo dentro. Sai che questa più grande è la stanza del capitano, poi c'è un'altra porta che dà in questa piccola area, da dove ci sono poi altre tre cabine, di cui questa qui più piccola so che c'è... è quella di Cabe. Ok. Salla. Che è un pene gigante! Che c'è? È un razzo! E va bene. Vabbè, allora sì, cerco di fare piano e di andare verso la... Siamo passati alla NASA? Tirami uno stealth. Quindi semplicemente destrezza. Steph. Sì. Se non ce l'hai. È il penultimo. Cos'è? Penultimo. Sì, destrezza. Destrezza. No, no, furtività. No. Furtività. Ah, sì. 11. 11. Qual è la vostra perception passiva? A mia? Voi che siete nella cos'è, stiva. Cos'è? 14. 13. Più... Vabbè, calcola che sta dormendo. 14. Questo penso che... Io no? Beh, fai cadere il bastone. Ma tu lo sei... Tu infatti sala no, loro. Quindi 13 14. 14 tutti. Dovrei avere 14 così. Allora, voi tre sentite che cioè che mi qualcuno si di voi si è, cioè qualcuno del vostro comparto si è alzato dall'amaca e sta camminando. Io dico loro, qualcuno vuole di nuovo fregarsi con quello tario del cazzo. Che bello, mi piace bello, sì. Mi piace che lui quando lo svegliano ha il riflesso tanto qui, che poi tanto non è così da me in tutto intorno. No, sono la macchia a castello. Tanto io non subisco danni. No, vabbè, sentite, sì, sarà uno che sta andando a pisciare. Ma dove? Apro gli occhi. Nell'oscurità fammi un perception. È questo il problema? Wow. Cazzo di là, capisci che probabilmente è Sirron perché la sua amaca è vuota. Vedi qualcuno che va verso l'uscita, diciamo, per andare su, diciamo, sul ponte. Nell'oscurità non vede alle spalle, non lo capisci bene alle spalle, però immagino. Me lo dici? Sì, dico, è il monaco. Posso provare a seguirlo? Se cioè, no, non sappiamo che è un monaco. È il tizio. Allora, voi avete tutti parlato. È mortale. Con un'altissima voce, immagino. Ma comunque, tu sai di averli svegliati. Sì, tu okay. Sai di averli svegliati. Sì, vabbè, posso? Sì. Con cosa? Sempre stealth. Sì, con stealth. Devo fare la passiva o faccio perception? Ti posso dare un dado. Sì, fai un dado. Oddio, 23. Sì. Tirami per sé. Non lo vedo. Cosa vuol dire? Non lo 4 di dado. Ma quasi vedo di più. 4. Non lo vedo. Va bene, io non lo vedo. Cioè, quindi non mi accorgo che lui abbandona la logica per seguirmi. Non ti accorgi che ti sta seguendo. Tu arrivi sul ponte e puoi proseguire. C'è qualcuno o meno... Quindi tu lo sai, sì, c'è qualche marinaio. Alla fine possiamo girare per la nave normalmente. No, lasciatemi dormire. In realtà sì, c'è qualche marinaio. Però normalmente l'accesso alla cabina. Però puoi fare un'altra. Diciamo, immagino però che al castello della poppa nessuno possa essere. In realtà non c'è nessuno di guardia. No, ovvio, però se un marinaio mi vede che vado verso le stanze della torre ti porto giusto così. Immagino. Cioè, forse tra qualche livello per qualcuno userò. Può probabilmente sì. Ma mi sa che dovrò ricomprare. Però cioè, secondo bellini, te cioè lì c'è qualcuno, comunque non proprio di guardia, però che controlla. Può essere però che se chiedi di parlare, dici che devi parlare con Cabe, esatto, quello è... magari... Io lo faccio così, non lo faccio, non faccio più stealth, faccio semplicemente normalmente, con lo chalance. Sì, c'è uno lì dal castello che è un po' ma mezzo... c'è un castello sulla barca? Cioè il castello di Poppa. Ah. E è dove sono sopra c'è il timone e sotto ci sono le diciamo la cabina più fighe, quelle con le finestre, okay. E, no sono proprio delle finestre. Io dopo un po' che e vabbè, quindi Laz lo segui, allora vedi su che praticamente Sirron si sta avvicinando al castello. Qualcosa dietro di te. Al castello di Poppa, e sta parlando con un marinaio lì. Non sento. Dopo adesso dimmi cosa gli dici. Lui dice: ma cosa fai qua? Hai bisogno di aiuto? No, volevo parlare col mio compagno di viaggio Cabe. Beh, penso che stia dormendo adesso. No, ma so che dorme poco, volevo fare un chiacchiere con lui. I vecchi che dormono poco, dai. Mentre tu dormirai per sempre. Sei sicuro di questo? Dopo... Beh, vabbè, in effetti non disturbi il capitano. No, ci mancherebbe. Ascolta, però fa una cosa. Se dovete parlare, magari venite a parlare. Sì, adesso vado a chiamarlo, qui vedo. Va bene, ti apre la porta e ti fa entrare. Devo fare una prova per ascoltare o... Io allora, quando vedi puoi farmi uno stealth per avvicinarti, se vuoi, e un perception poi per ascoltare. Va bene. Dopo poco che Harry se n'è andato. 19. Tua passiva? No, passiva. No, dai, ti prego, non la passiva. Passa 19 di dado, Cristo. Non mi ricordo come si calcola. È scritto. Non lo so, qua ci sta di passiva. Qua ci sta passiva, no? Che dite? In genere, contro lo stealth si usa sempre la passiva, a meno che lui non lo stia attivamente cercando. Cosa che prima ci poteva stare, ma adesso, non avendolo sentito prima, no. Sì, no, 13. Allora... Va bene, riesci a avvicinarti, diciamo, arrivi dal... All'angolo, tipo. No, ma poi ti nascondi qui dietro, questo è uno degli alberi. Ci ho pensato adesso, se mi segue qualcuno non me ne frega un cazzo. Io dopo che Eric è andato via da poco, anch'io mi alzo. In effetti possono anche seguirmi, non me ne frega un marrone. Sì, cioè tu... Oddio, non so neanche se ti sei accorto che l'AS è un momento di andato via. Sì, però me l'ha detto lui, gli ho detto che era cosa. Ah, ti alzi anche tu? Sì. Sì, non subito, io con calma. Ok. E devo fare perception. Nel senso, non dopo 5 minuti, ma neanche immediatamente. Un minuto dopo l'ora. No, non capisci bene cosa stanno dicendo. Ok. Vabbè, però dai gesti si capisce che niente di che. Però a un certo punto vedi che di fatto questo qui gli apre la porta ed entra dentro dalla parte delle cabine dove ci sono i reclutatori, gli ufficiali e anche Cabe. Cabe. Ok, tu sei qua da Cabe. Non mi dice niente questo. Lui ha aperto la porta, te l'ha chiusa dietro, tu sei qui in questo atrio. Sì, di fatto qua ci sono varie porte per varie cabine. Per e sai che quella piccolina davanti a te è quella di Cabe. C'è qualche luce? che arriva dal dentro le stanze? No, perché sono tutte chiuse le porte. Vai, la sotto. Provo comunque nel mentre mi sposto anch'io verso la porta. Non passa luce, però ci può essere un lumino, diciamo, che illumina la porta. Cioè nella sua stanza è buio, però. Provo... La sua stanza pensi che sia buio, pensi che sia dormendo. Nel mentre mi avvicino anch'io senza nascondermi, tanto la porta è chiusa, la guardo lì davanti. E tu cosa vuoi, piccoletto? Quando mi vede gli dico: sto seguendo Sirron, e perché ha dimenticato questo, lo stavo portando a Gabe e gli faccio vedere un foglio della mappa che è bianco, però è chiuso. Se vuoi faccio prova per persuasione. Fammi il persuasione. Io farei una prova per dove cazzo hai preso quel foglio. Dal mio zaino, una pergamena ce l'ho. Ah, è pergamena. Sì, allora. 21. Ah, beh, oggi c'è un grande viavà, insomma, a quanto pare. C'è una festa al camerino. Vabbè, però c'è ragazzi, no, come dicevo al tuo amico, no? non fate casino per piacere, cioè venite dopo sul ponte, se dovete parlare, non è un problema, però sul ponte. Io non ho bisogno di parlare, devo solo dare vorrei questo che gli ufficiali e il capitano si svegliassero, insomma, sarebbe un po' comodo come cosa. E allora, Shio, tu prima che lui apra la porta, senti che dietro di te senti la voce di Eric che parla e praticamente la dice queste cose qua, più o meno, capisci il concetto, eccetera. Però non me ne vedi così. Mi avvicino alla porta, eppure silenziosamente possibile, di aprire, cioè, senza tutti fare, di sei, no, tutti di qua. Per cominciare a guardare dentro. Immagino una prova, no, di questa cosa. Non so se siete direi che se prende l'attività è abbastanza sacchetto. Sì. 20. Tu a percezione passiva? Sacchetto. Salla? L'ho mancato. Ok. Apri la porta e vedi Cape che sta ronfando. Non ti sei chiuso la grotta? No, scusa. 10. No, dai, che sta ronfando della grossa sul suo letto. Non so, che per lui è particolarmente grande in realtà. Cioè, è coperto. Eh? È coperto. Lo vedo bene, c'ha una coperta che lo copre un po'. Sì, ha una coperta, però è indiscutibilmente lui. Però c'è una cosa che... Ah, no, effettivamente è vero. Tu vedi la sua faccia. Okay. Cioè, non sai che per lui è grande. È un po' buio, c'è un po' di luce della luna, però... Entra la luce del lumino. Sì, entra la luce del lumino. C'è qualcosa, cioè, ok, sono molti anni che non lo vedi, però, boh, visto così, cioè, dovresti controllare meglio che non sia lui. Ora, mi avvicino. Intanto, Laz, tu entri e vedi... Beh, lui mi ha sentito, quindi non c'è bisogno di nascondersi o cosa. È giusto, no? Ti fa entrare, entri in questa stanzetta col lumino. E vedo che c'è la porta aperta. E vedi che praticamente... c'è la porta della cabina davanti, che è quella di Kev, aperta, e Sirron che sta entrando. Mi avvicino. E non ti nascondi, eccetera. Quindi tu sai che Laz è dietro di te, che è Eric dietro di te. Bene. Cosa fai? Prendo la coperta e la tolgo. E okay. Cosa vedo? Com'è? È in pigiama o no? Però gli devo tirare. No, devi tirare, semplicemente penso che, cioè, a meno che tu non fai per stealth. Sì. Tipo tovaglia. Sì, dai, lo faccio in stealth. Sì. Se ti scopre così, magari tu non te ne accorgi. Sì, secondo me. Delicatamente. Se invece arriva e fa così, te ne accorgi. 17. Fammi un... No, passiva dovrebbe essere. Ma che passiva? Fammelo con svantaggio. Io faccio con svantaggio. Sì, tu con svantaggio. Su passivo, quindi niente, non c'è. Dieci, cazzo, è uguale alla sua, non so chi vince in pareggio. Mi sa lui. Allora, praticamente vedi Salla, cioè qualcuno che cazzo stai, cioè, la tua cioè praticamente ti senti un attimo, senti del freddo come se qualcuno ti avesse tolto piano, ma ti avesse tolto comunque la tua coperta, e vedi una figura davanti a te. A parte di me che allora, cosa adesso abuserebbe di lui, però di fatto tu, volendo, la possibilità per colpirlo ce l'hai prima, comunque mi sa, no, non lo so, forse no, però il fatto è che sicuramente è un halfling, cioè o si è ristretto molto o comunque è un halfling. Ma giocalo un'iniziativa. Ma anch'io sono arrivato tipo. Sì, dai, tiriamo tutti, tira tutti iniziativa. Scusa. Sì, vabbè, tanto dice cosa vede. 21. Io su questo devo ritirare come Alpingo. Sì, solo... sì. No. Vabbè. Ma una volta al giorno, può. No, no, no, l'uno, no, l'uno. Mai fare uno. Va bene. 21. 9. 19. Sì, non sta a te. Vabbè, questo lancio via la coperta a questo punto. Hai cioè, non capisci bene che cazzo succede, ma comunque hai rabbia perché o ti è stato mentito, cioè, vuoi comunque indagare su questo. Sto per dargli una bastonata fortissimo, però poi mi blocco e gli urlo: ma che cazzo sei? Mentitore! Non puoi urlare, c'è il capitano che dorme. Lo faccio. Oh, ti ho urlato, ma che cazzo sei? Io gli spammo. Da prima sta. Sì, sta. No, sta salvo. Sal. Gli spammo, sono in faccia di secondo livello. Vai. Ha un tiro salvezza. Cazzo sei tu, scusa. Tirali tu, scelgo 7 di 8. Cosa? No. In che senso? Ah, per i punti ferita se ne fa di più. Vai, tiro io. Tiro questi dadi. Vabbè, ma lo fa. No, 7 di 8. Vabbè, no, non è detto. Vabbè, tirali tu, scusa. Aspetta, o li tiri tu o li tiro io. Vai, tirati. Se trovo altri due di odio. Di odio. No, non anch'io, tieni. No! Pure dammelo, però. No, adesso ti ho solito. Tieni, tieni. È il tuo. No, perché fanno critico. Cioè. Non ce l'ho. No, è il tuo, l'ho preso io da lì. Allora, li tiro qua davanti. Quindi il totale deve fare. Vabbè, vai, sta a 16. Ci sono 2, 8 e 2, 1. Quindi allora, 4, 16 più 23. 29, 30, 37. Tu ne hai? Aspetta, i suoi sono già svaniti? Sì, sì, sì, da giorno. Allora sì. Sonni? Ok, sprofondi in un sonno e cadi addosso a Cabe. Va bene, io mi alzo. No, no, al momento c'hai, che, c'hai lui che ti schiaccia, perché è così. Però adesso sta prima l'Astire. In realtà, adesso per me è cioè, oddio, è il movimento se vuoi, però devi uscire da, da sotto di Sir. Da sotto di sì. Io entro, immagino, vedendo sta scena. Tu vedi lui che fa, che a un certo punto con una voce particolarmente acuta rispetto alla sua fa: ma che cazzo sei? Ah, è arrivato Giulio? E praticamente e poi praticamente vedi che io fa: ma che cazzo sei tu, stronzo? E poi improvvisamente lui fa: ho sonno. E va su Cabe che fa: maledetto. E poi sguincia da fuori, da sotto di lui. Cosa sta succedendo qua? Non lo so, leghiamolo e poi vediamo. Leghiamolo. Vabbè, sì, hai chiaramente, vabbè, hai chiaramente visto che stavo per darti una bastonata. Quello era io molto poleggiato, sì, sì. Posso prendere? Allora, intanto, mentre lo legate, entrano il tizio che era guardia. Grande, ottimo lavoro. E poi arrivano piano piano, mentre lo legate, praticamente arriva. Quelli fa: ma ragazzi, ma cosa state facendo? Siete impazziti? Cioè, vi avevo detto di non fare casino. Allora, guarda, ora il capitano ci fotterà tutti a sangue. Grazie, grazie, grazie, ottimo lavoro. Arrivano un paio di ufficiali e anche il capitano che dicono: che cazzo state facendo? Il capitano fa: che cazzo fate qua a quest'ora? E lei fa: capitano, non so che cosa. Intanto noi, intanto che arriva, noi stiamo lì. Cioè io lo sto. Sì, voi l'avete legato ora. Io provo a spiegare. Quanto dura il sonno? Niente, dorme. Non lo so. Provo a spiegare il sonno. E legarlo non ha tipo... la possibilità che si svegli. Lo lega, mica lo strangola. Beh, lui gli ha tolto la coperta e si è svegliato. No, dura poco in realtà, un minuto. Ah. Va bene, intanto allora, è passato un minuto, si sveglia, si è legato. Tirami un è legato al letto. Fammi un tiro salvezza. Legato su... a una cazzo di sedia di merda. Tiro salvezza su saggezza, di solito. Io? Sono. Perché cosa? Scusami. Per riprendersi dallo sfondo. 13. Ah, saggezza 16. 16. Sei tu, cioè, ti trovi, non sai bene cosa cazzo sia successo, ma ti trovi legato in quella che evidentemente è la cabina di Cabe, presumi, con Cabe e Sirron, che sono diciamo, no, Sirron, con Cabe e Erric, che sono, diciamo, sui tuoi lati, tu sei totalmente legato, e praticamente alla porta sono arrivati un tizio che è un marinaio che non sa chi sia, degli ufficiali e il capitano, che sembra molto arrabbiato per quello che sta succedendo. Oh. Vabbè, tra me e me cosa succede qua? Cazzo di nuovo. Allora, sembra l'ora di fare questa cosa. Sì, allora sto tizio è entrato con l'intento di farmi del male. Questo tizio non è uno dei tuoi amici, gli amichetti con cui giri di solito. Ma anche gli amici è una parola grossa. Comunque. Spesso abusiamo. La tua guardia l'ha fatta entrare, ma non è colpa sua, perché pensava fosse un mio compagno. E grazie ai miei riflessi e a Erric non è successo niente, ho semplicemente legato e adesso attendiamo di capire che cazzo vuole questo tipo. Fammi un persuasion. Come un persuasion, Dio buono. Lo potrei dire io. Ovviamente ha fatto la verità, perché... cioè, non deve... 25 basta. Sì, sì, sì, no, però la cosa è vera, però è, diciamo, per, no, no, sì, è per, diciamo, vedere come accettano questa versione dei fatti. Il capitano si fida di te e dice: mi sembra molto strano come comportamento, forse è legato alla maledizione portata dal vostro no, compagno. È legato alla sedia. Puttatela fuori dal porto! Lo dici? No. No, ti prego, dillo. Non è un personaggio che dice queste cose, cazzo, saresti di Inspiration ogni 2 minuti. E userei i punti Inspiration per salvarmi la vita. Esatto, bravo. Va bene. No, vabbè, io... Energia infinita. Io provo a guardare Cave e dire: ma no, ma è impossibile che ti volessi fare del male. Dai, dai, Erica, anche tu puoi confermare, non gli farei mai niente. Impossibile. Beh, non sei sicuro. Cioè, pensi che parlasse di te, ma non capisci come questo possa essere possibile. O a meno che... Io sono qua perché ho visto lui alzarsi con il bastone in mano e mi è sembrato un po' sospetto. Questo tizio, spero che abbia una valida spiegazione, se no capitano mi rimetta sul giudizio. Cioè, tu dici che lui è entrato per farti del male, e tu come hai fatto a... vabbè, come hai fatto a, diciamo, a sopraffare? Io mi sono svoltato, mi sono riuscito a salvare in tempo, poi io, cioè, a spostare al volo, evitare il suo attacco, e io e Erric l'abbiamo legato a lei. E tu come mai eri qua, invece? Si rivolge a te. Perché ci siamo accorti che una branda era vuota e abbiamo visto che era la sua, e vedendolo allontanarsi con un bastone in mano mi sembrava un po' sospetto. Intanto c'è il marinaio che fa: no, capitano, io non sapevo, come dice Cabe, io sapevo che fosse suo amico. Capitano guarda sto tizio e fa: allora, tu non capisci un cazzo, mi stai già irritando, esci di qua, poi ci penseremo. Da prego, capitano, io... Facciamo così, d'ora in poi non si entra, nessuno entra da nessuna parte, anche se devi visitare i suoi amichetti. Intanto esci di qua che mi hai già rotto le palle. Sembra un professore alle gite scolastiche, questo. Esatto. E fa, beh, allora, tu Salamino, cos'hai da dire? Io mi rivolgo al capitano e dico: ok, è tutto un grande misunderstanding. La palla del diavolo! Fuori da punta! Sei tu bene, ho detto una valida. Ah, ok, è tutto un grande equivoco. Chiedo scusa al capitano e al suo equipaggio per aver arrecato disturbo al vostro sonno. Io e il mio compagno di viaggio, Cabe, ci chiariremo in privato per quello che è successo. Chiedo scusa a tutti, ma vi assicuro che il vostro equipaggio non c'entra niente, non dia la colpa a quella guardia, è colpa mia, mi assumo la responsabilità. Chiedo scusa ancora per il disturbo. Io non credo, cioè, credo che tu adesso ci darai una valida spiegazione per quale motivo dovrebbe essere questo magico misunderstanding. Il capitano è legge, non è che dici al poliziotto: no, quando ti fa comodo, il capitano è legge. No, non gli avrei mai fatto del male. Era tutto uno scherzo che è stato frainteso. Uno scherzo come? Uno scherzo. A come quello della notte, esatto, sulla mia nave, e dopo tutto quello casini che avete fatto, io sono a letto. Va bene, che Blaze è stato di questa spiegazione. In questo momento sta tornando. Ah sì, è vero Giulio, scusami, ti ho un po' perso. Sì, tu sta passando il moonwalk e tornando indietro. Tu praticamente facevi prove di stealth o roba. No, no, io mi avvicinavo. Sali su, a un certo, sei andato su, a un certo punto hai sentito del trambusto, hai visto tipo il capitano che tutto insomma semivestaglia usciva dalla suoi alloggi, cioè vestito la buona, vestiva dai suoi alloggi, altra gente che si muoveva e tutti che entravano dalla parte lì, e senti un po' di vociare lì dentro, però la porta è chiusa. Boh, mi metto magari lì, lì vicino, seduto. Dopo poco, dopo un po' esce questo, questo marinaio, un po' con la faccia un po' così, sembra un po' scura, e si mette sul lato e richiude tra la porta. Gabe? Posso fare un tiro di intuizione per vedere se riesco a capire che Sceo non era Sceo? Sì. Fammi un insight. Anche con difficoltà alta, non so. Io parlo un po' con il marinaio. Cioè, sì. Passo. Quanto hai fatto? 10. 10. Cioè, queste scuse da parte di Sirron... No, no, no, le scuse. Se quando lui cercava di colpirmi mi sono accorto. Ah. Che non era... Ok. No. No. Cioè, allora, la, cosa che hai notato, la cosa che hai notato, questa l'hai notato, aveva una voce un po' più acuta, però, però non è qualcosa, cioè, poteva essere la sua, che quando io è arrabbiato, non l'hai mai visto arrabbiato, io quando, ho sentito quando è arrabbiato c'ha questa voce qua. Quando ho sentito parlare con il marinaio non ho sentito niente. Quando hai parlato col marinaio non avevi sentito niente, se ti ricordi. Okay. Quando hai sentito quella voce era un po' più acuta, però ragazzi ti parlano di poco. E potrebbe davvero essere che quando si arrabbia gli viene la voce... Niente, comunque capitano, che la situazione non mi convince, io non mi sento per niente al sicuro. Basta il pesce carne. Però mi rimetto al suo slì. Beh, devo ammettere che già legato così avrei molto la tentazione di buttarlo in mare. L'unica cosa che posso fare da parte mia è il secondo PG. Ovviamente, ovviamente mi assumo la piena responsabilità di questo, di questa. Abbiamo ricerca. Capito che ti assumi la piena responsabilità, Sirron. Sirron, no, salame. Ma perché cazzo, che scherzo era? Perché hai voluto fare uno scherzo? Cioè, sei impazzito? Puoi menare col bastone. Non sono impazzito, ho sbagliato e pagherò le conseguenze, però. Ma perché sei venuto qua? È uno scherzo frainteso, basta, volevo spaventarti e finiva lì. Ma cercando di uccidermi? Non ti avrei mai ucciso. Ti saresti spaventato, sicuro. Non ti avrei mai ucciso. Allora, tu hai visto Sirron che praticamente aveva un bastone che stava per colpirti, e però in qualche modo si è trattenuto. Però aveva il bastone in mano, infatti, pronto a colpirti. Infatti, cioè io ho fatto per quella prova di intuizione, però se cioè, intuisci che lui ha, non ha, cioè, se avesse voluto, probabilmente sarebbe riuscito a tirarti un colpo. Vabbè, che mi frega, non è che posso aspettare la prossima notte, aspettare che magari... No, no, no, no, no, te lo dico per completezza di informazione. Sì, sì, certo. Io... non so, capitano, o lo rinchiudiamo e lo scarichiamo al prossimo... al prossimo... Beh, ok, allora... In una cassa, magari. Allora, ok, fai caso. Allora, sono stanco e non mi interessa. Allora, per il momento facciamo così. Ti metteremo in... Visto che sei già legato, la cosa dovrebbe essere abbastanza facile. Ti metteremo in gattabuia. E dopodiché, in questi giorni, prima di arrivare al porto, voi avrete la possibilità di chiarirvi. E se lo riterrai pericoloso, Cabe, lo lasceremo. Ok, chiedo... So che non sono nella posizione di dettare condizioni. Esattamente, bravo. Però chiedo solo di riavere le mie cose con me in gattabuia. Chiedo solo questo. Sì, ti danno le armi per andare... No, anche le armi senza armi, sono i miei oggetti personali. È una richiesta non molto razionale e non verrà accolta in quanto tale. Buonanotte, portatelo via. Non lo sai, ma adesso io vado con gli altri a cercare di programmare la tua volta e capire perché sei impazzito. E... comunque il vostro atteggiamento, soprattutto si rivolge a te Eric, non mi piace per niente. Ora vi metterò su più stretta osservazione. Anche perché fino adesso la gente tra i ritorno nelle brand. Allora Giulio, tu vedi se non fai, non vuoi fare nulla. Volevo parlare con un po' con i marinai, vedevo cosa era successo. Ah, il marinaio perché dice no, no, la cosa sinistra, torna a dormire, torna a dormire, tutto tranquillo. No, ma stai tranquillo tu, ti vedo agitato adesso tipo. Test. Faccio tipo Thunder Wave. Faccio un test. Chi è che fa casino qua? Mi sbaglio. No, faccio un test. Che ti apre gli occhi. Cos'è San Siro? Cugina, il motivo per cui non ci sta seguendo stasera. Ma cos'è San Siro? Non gioca l'Inter. E a vedere. Cos'è che gli devi fare? Persuasion ho fatto 2. No, aspetta. Cos'è? Ah, lo agiti di brutto, cioè proprio lì paranoi pesantemente. Ma no, dai, ti prego, dai, il capitano già con me, ti supplico, devi andare via. Ti prego, no, dove via, via, no. E si butta in mano, no, calma, non è colpa tua. Il capitano mi punirà. Invece dico, il capitano mi punirà. Gli dei guardano la no, che gli dei punirano, che gli dei, si vede tipo lì a piangere, sconsolato, tipo veramente, che la bici che ha un po' però già so, è super imparanoiato, non ho calmare questo. Mentre tu sei lì che lo stai imparanoiato di brutto. Non mi sono tornato a palestra. Mentre tu sei lì che stai imparanoiando di brutto e Katta sta giocando a Pokémon. Lo sai che al mare ci sono anche gli squali, non arriva. Escono praticamente per non parlare dei tuoni e dei fulmini, potrebbero bruciare tutta la nave. Dalla porta che è dove hai visto che era uscito questo marinaio, escono il capitano che va nei suoi alloggi, diciamo gli ufficiali, il capitano esce e vede tipo vede che sei tu e l'altro, guarda l'altro e fa: e adesso che cazzo fa questo? E poi guarda te e fa: ah, anche tu qua. Non sei mai troppo lontano dai casini, vedo. E se ne va. E se ne va dall'alloggio. Poi escono. Poi tipo escono gli ufficiali che portano legato Sirron, e che sta dicendo: le mie cose, ho rubato le mie cose. E no, scherzo, può dire quello che vuole. Dico normalmente. Legato, se lo stanno portando via, e chiamano raccolta un paio di marinai che sono lì per dargli una mano, e dicono: questo va in gattabuia! Sì, in gattabuia! Dicono tutte, dopo aver sentito tutto questo trambusto, mi alzo e vado a vedere. Sì, perché un po' di trambusto, quindi alcuni sono saliti sopra. Sì, e quindi si crea. E poi esce, dietro di loro c'è Eric, che si può avvicinare a te. Ragione, e molti dicono: sì, in gattabuia! In gattabuia! Alcuni che non so. Ragazzi, ma non avete mai dato una bastonata a me? Arriva della gente, tipo che cioè non sa neanche chi cazzo sei, momenti, e ti spinge addosso. In gattabuia! Devi andare in gattabuia! Il capitano ha parlato, ci devi stare. Vengo a chiedere cosa è successo. Io pensavo lo sapesse. Cazzo, mi sa che la prossima volta è riassunto tocca a me. Cazzo, tutto sto casino arriva Katta tipo con le pantofole. Cos'è sto casino? Col cappello, col pomponi. Io uscirei dalla cabina e cercherei gli altri babbuini. Ma siamo tutti lì. In pratica. Vabbè, io subisco tutto a testa bassa senza replicare niente. Vieni messo in gattabuia. Capisco. E nei giorni successivi tu sei lì, vieni fondamentalmente slegato. Dopo la prima notte. Prima ti hai lasciato proprio legato. Poi vieni slegato. La tua roba in che senso? Cioè tu alla fine sei stato legato. Non lo so, il tuo zaino mi sa che è stato legato con te, credo. Lo trugo, la roba che avevo nello zaino sarà la branda. Sì, io voglio capire perché lui è impazzito. Sì, tranne una cosa che comunque è con te. Lo frughi, però non mi hai detto che lo frugavi. Ah, ok. Sì, no, però in realtà te lo sei frugavi. Sicuro, beh. Quando mi hai detto che? Ha detto che lo frugava? Ha detto che voleva vedere nelle cose di scena. Ma prima di legarlo? No, ha detto poi dopo voglio andare a vedere. No, nello zaino. Prima non l'hai frugato. Adesso ce la giochiamo, tipo, che frughiamo la sua, poi andiamo a interrogarlo, poi gli diamo al capitano. No, quello che io voglio sapere, semplicemente tu, prima di legarlo, non mi hai detto che l'hai frugato, quindi non l'hai frugato. L'unica cosa che tu hai lì è il suo bastone. Piano, se avessi avuto uno zaino l'avrei fatto. No, lo zaino non ce l'ha nella sua cosa, però quella roba lì è con te. Dove lo nascondi? Quella roba lì è con te, sì. Allora sì, non me ne frega un cazzo, chiedo solo se posso avere. Perché, cioè, semplicemente perché tipo... io non l'avrei. Cioè, tu come tu, ma tu non l'avresti lasciato lì, ma lui non l'avrebbe. Non l'avrebbe mai lasciato. E chiedo solo il giorno dopo, pieno di solitudine, se posso avere il mio flauto. Ma che cazzo chiedi? Ma adesso ti frughiamo la testa. Allora. Chiedo che cosa è successo per tutto sto casino, ragazzi. Fatto da raccontare da vostro amico, il vostro compagno di letto. Il compagno di letto. Sì, anche tu non ne sai molto, Giulio. No, ho chiesto a lui come era. Sì. Ah, sì, sì. Allora, il vostro compagno di letto è venuto in cabina da me e ha cercato di uccidermi. Ora, lui mi ha spiegato... Ah, perché? Allora, sei riuscito a capirlo? Quindi quello che vi propongo adesso è di frugare la sua roba e poi andare a frugare la sua testa. Ha cercato di ucciderti? Sì. È una cosa gravissima. Il codice prevede delle punizioni corporali molto severe. Ma non l'ha fatto. Infatti, l'unica cosa che mi trattiene... O potrebbe essere sacrificato agli dèi. Esatto, sì, lo so, sono convinto anch'io. L'unica cosa che mi trattiene è il fatto che vorrei capire prima le motivazioni. Ma non l'ha fatto. Allora, sì, tu Eric hai visto che lui ha alzato questo bastone, però effettivamente ha esitato comunque. Mi sono fermato, io non lo dico. Io ho capito che... Ti spiego, cioè, io mi sveglio la notte, vedo uno con un bastone, magari la prossima volta non esita, che cazzo fa? No, certo, però non ho tentato di ucciderti. Io sono venuto lì con le intenzioni e poi mi sono fermato. Ti sono venuti i rimpianti. Non proprio. Ecco. Non lo so però cosa succederà. Va bene, allora, prima che lo interroghiate il giorno dopo, nelle sue cose trovate la sua roba, tranne i due. Certo. E cos'è la sua roba? La sua roba ve la dice Shea. Allora, vabbè, a parte il bastone, dei dardi, uno zaino d'esploratore con tutto quello che c'è di uno zaino d'esploratore, un flauto di pan fatto da me. Una trappola per cacciare, degli abiti da viaggiatore, i perquisiscono la sua roba, un kit da cartografo con qualche mappa che ho fatto durante il viaggio. In realtà non sono interessante. Cioè, se ci potete arrivare prima voi a sua roba. Vabbè, dopo magari. No. Raga, nella sua roba di merda non c'è niente. Perché vuoi aiutare gli altri No, volevo rubare le monete. Solo che se siamo su noi a guardarsi. Tanto non gli serviranno, dove sta andando. Beh, un po' di monete addosso puoi avercele, però sono un ladro dopo tutto. Di andare a chiedere al capitano se possiamo interrogarlo. A voi ha detto qualcosa di perché a te che ha detto che vi potete parlare il giorno dopo. Sì, vabbè, domattina però. Sì, non adesso. Adesso è in gattabuia, lui vuol dormire. Il giorno dopo però lo puoi potete parlare. Lui ha detto qualcosa, non lo so, io. Cioè, lui ha detto che non gli importa molto. Scusa, il capitano, che, cioè, gli state rompendo tutti molto i coglioni. E se potesse, vi butterebbe tutti in mare. Però alla fine sono rimasti meno coloni del previsto. Quindi probabilmente vi vuole comunque portare forse là. Però si rimette a lui su quello che direi tu. Cioè, se tu probabilmente gli dici buttale in mare, lui forse alla fine è anche contento. Capito, scemo, devi lisciarmi bene. No, magari no, magari il mare non te lo fa buttare, però un po' di fustigate ci potrebbero stare. No, però sì, io sono nell'isola e poi andarcene. Bello. Non lo so, Gabe, noi abbiamo sentito... Goliath barbaro. Noi abbiamo sentito alzarsi. Vabbè, scemo, adesso proviamo a vedere perché sei pazzo. Noi l'abbiamo sentito alzarsi, io l'ho detto ad Eric ed Eric l'ha seguito. Sì, no, ma prima non gli ha detto niente, tipo, no. Adesso vado a uccidere Cade. No, si è alzato e ha preso andare. Nessuno ha mai detto che ti volessi uccidere. E non hai detto... Poi tu non ci sei. No, intanto parla tra di voi, poi esatto, ditemi quando andate ad Asci. Esatto, direi di fare il vecchio trucco del... Poliziotto cattivo, quello più cattivo e quello... Cos'è un poliziotto? Del poliziotto del pirata e del poliziotto dormiente. Io faccio quello dormiente. Io andrò lì e gli spiegherò che per questo genere di infrazioni si rischiano dalle 10 alle 30 frustate e venire abbandonati al primo porto. Mm-hmm. Poi vediamo come la prende. Vabbè, andiamo domattina e gli chiediamo perché. Ai miei tempi si legava la gente attorno a un palo di ferro e la si esponeva durante un temporale su una cima. Scusate. Andiamo il giorno dopo a chiedere a Sceo perché no. Sì, Sceo, arrivano a parlarti Cabe e gli altri. Cabe e gli altri. Abbiamo dei nomi. Abbiamo dei nomi. È giusto, cazzo. Ero io, Cabe, e poi c'erano anche degli altri, no, ma non ricordo bene perché. O chi erano? Storia è così. Quello che si ricorderanno. Cioè, tirami un fammi tirare salvezza. Forse tra le mie cose c'era anche un tuo libro. Anzi no, iniziamo pure, iniziate pure a parlare. Vediamo che ah, ti sei messo in un brutto guaio, giovanotto. Arro. Dov'è la pipa? No, vabbè, faccio sempre. No, come è bavosa, okay. La pallina bavosa anche. Ci sono pene severissime per chi fa questo genere di azioni a bordo. A quale tipo di azioni? Io non ho fatto nulla. Beh, avete tutti frainteso quello che volevo fare, dai. Lo so, non li avrei mai fatto, però purtroppo ti sei cacciato in una brutta situazione, nel senso che se il capitano lascia correre. Mi ha già detto uno scherzo, noi sì, sei un buffone uguale, morirai per questo. Continua a dire che è uno scherzo. Ok, Sceo, tira, fammi un tiro salvezza con svantaggio sulla salvezza. Caro, io faccio sì, sulla salvezza. Ah, è che difficilmente il capitano 11. A questo punto può lasciare 11 correre. 11 è con svantaggio. Sì. Okay. E dopo che hai dato le prime risposte, perdi cognizione di te e entra in campo di nuovo la tua altra natura che vuole assolutamente delle spiegazioni da parte di Cabe su chi è e su perché dice di essere Anolian. C'è una porta, non stiamo parlando tramite una porta. Una grata, ecco. La grata della tua prigione. Mi alzo, mi appoggio alla grata, guardo la terra di questo. Non era legato. Di voi non mi interessa niente. Non era legato. Non... l'hanno slegato il giorno dopo. Però se è lì, insomma, non può farvi molto. Mi appoggio alla sbarra, indico loro tre, ti dico di levarsi, guardo e dico, tu chi sei? Cabe, Brengwine. È sempre quello. Titore! Non è vero. Tu non ti fai chiamare così. Chi sei? Mi faccio chiamare Cabe, perché mi chiamo Cabe. E i libri che mi hai passato? Sono i miei libri, le mie storie. Non c'è scritto Cabe? No, c'è scritto Anolian. Ma tu non sei Anolian. Oddio, ti ho matto questo. Sai con certezza che Anolian era un elfo. Ma tutto questo ma noi c'entra? Ci capiamo qualcosa? O... Tu sei un l'atteggiamento, nomi, l'atteggiamento no, no, no, anche di quello di cui parlano loro, libri, storie, nomi. Sapete che Cabe è un grande avventuriero che è conosciuto in tutto il reame della Saradovia e non solo, come è stato conosciuto come Anolian, un grande avventuriero che è stato un grande eroe nella guerra che c'è stata tra Saradovia e Adlabar e comunque protagonista di tantissime storie di tantissime storie importanti e voi fino a trovarlo non sapevate che fosse ancora vivo però diciamo che sapete che lui è, insomma che Cabe e Anolian sono in teoria la stessa cosa cioè alcuni Tu, diciamo, come halfling... Comunque nelle mie avventure mi sono fatto chiamare anche in altri modi. Sì, però... Sì, a vari nomi. Però il concetto di base è che quello che sanno alcuni di voi, tranne Giulio, che non è particolarmente interessato a questo, come è che... No, perché aveva già fatto sto tiro. È che in alcune leggende... In alcune leggende che si passano è conosciuto come un halfling, in altre come un elfo, però siete più propensi a pensare che sia un halfling, soprattutto tu, Eric, che lo consideri un eroe degli halfling. Soprattutto adesso che lo conoscono. E adesso che lo conoscete non avete un motivo particolare di dubitare. Sei un elfo. Tra l'altro nelle mie storie non è scritto che sono un elfo. No, non c'è scritto, però alcune delle storie che passano nel paese erano... ma lo sapete, i bardi, orecchia punta... Ma questo è fuori, non è venuta fuori neanche dalla discussione, semplicemente extra. Quello che voi notate è che Sirron dall'inizio che era un po' pacioccoso seduto, è diventato particolarmente aggressivo, ha una voce un po' strana, normale, uno sguardo diverso dal normale, sembra quasi un'altra persona. Vabbè, la morale della favola è: perché mi volevi ammazzare? Io non volevo uccidere te, e tu non sai chi dici di essere. Se tu non volevi uccidere me, però hai cercato di uccidere me. Io volevo uccidere quello per cui ti spacci di essere. Chi volevi uccidere? Chi volevi uccidere? Anolian, e tu non sei Anolian. Ok, perfetto, io lo butterei in mare diretto. Anolian era un cazzo di elfo. Prima qualche frustata gliela darei comunque, per dare l'esempio. Per far uscire il sangue e a tirare gli spari. E soprattutto Anolian non era in grado di fare le imprese che hai descritto, assolutamente. Sì, va bene. Hai tutto questo? Dimmi chi sei. Sempre chi. Tutte quelle storie che hai scritto nei tuoi libri, dove le hai imparate? Da chi le hai sentite? Le ho fatte io. Fare un insight sulla discussione. Io, esatto, faccio, sì. Io faccio un insight. Allora, in realtà non potreste. Io sì, ma... No, non ho la minima idea di che lui che mi dice parlando. Le ho vissute io, sono mie quelle. Come volete, ve la volete giocare a no, così? Perché non si può, in teoria, non so. In teoria tra personaggi si va per... Racconti. Per ah, frasi. Okay. Vabbè, sì, sicuramente sì. Ecco. Ma insomma, visto che io non conosco Anolian, è così per vedere. Più che altro posso capire meglio una cosa, più meglio che un insight. Decido io a random. Come volete, aspetta, potete usare. Decidiamo più che, insieme. Più che un insight, non si può cercare un qualcosa di perception per capire chi mente dei due? Il problema è questo. Esatto, il problema è questo. Volete usare questi dadi qua? Queste cose qua, oppure facciamo che secondo me è più carino a conversazione? Sì, no, secondo me no, e te la risolvo subito così. Primo, le domande le faccio io. Secondo, tu hai cercato di uccidermi, mi devi dare una spiegazione, se no muori. Terzo, comunque no, se tu fossi veramente chi dici di essere, saresti già morto. Secondo te la ragione. Perché sei è un risolto. Secondo me, almeno per noi esterni, ha dato per capire. Perché chi dici di essere è cioè, morto. Mi rimane il dubbio, potete... pensare quello che so, dicono sono anche le mie storie che sono cos'è che hai detto? Di essere morto. Di essere morto. No, tu non lo sai. Ah, tu pensavi che fosse lui. No, no, beh, in realtà poteva essere un elfo. Ah, sì. Ci sei detto le mie storie che sono morto anche più di una volta, poi mi ah, ma che sei tornato in vita, sì. Ho capito, vabbè. No, però nel senso Cast of Detect Magic. Detect Magic è per gli oggetti, no? Anche gli incantesimi. Perché? Scusami, vuoi per vedere se c'è qualcosa che influenza io. Sì. Comunque tranquillo, non cercherò più di uccidere ora che ho capito che non sei chi dici di essere. Non ce l'ho con te. Un cazzo, sei morto. Per la durata, però vorresti sapere che ce l'hai fatto a noi. Fino a 10 minuti. Quello sì. Infatti gli ho chiesto più sento volte. Sento la presenza della magia in 30 piedi da me. Ma anche posso usare la mia azione? Boh, guarda, io ti dico per la mia esistenza in questo momento. Guarda, io ti dico anche a te: se dovessimo parlare prettamente di gioco, la tua fine sarebbe quella che dice lui. Perché non ti stai difendendo. Nell'area ci sono due oggetti. Se lo spieghi, è ovvio che hai detto di uccidere una persona. Uno c'è la Sirro ed è scuola abiurazione. Per cui non vuoi vicino, ma è un po' strano. C'è una cosa un po'. Tu, per la mia esistenza, forte. In questo momento sei indifferente. E poi uno ce l'ha. Non sei te quello che volevo uccidere. Io ero convinto che tu fossi un'altra persona. Ti spiego, se in gioco mi dà una motivazione valida. Sì, no, ma già è quello che sto dicendo. Sì, giocatevela in gioco. Quindi sei morto. Ti sto dicendo, se tu fossi chi dici di essere e non lo sei. Nessuno ti dico di essere. No, tu non sei un elfo. Sì, sono io. Sei un elfo? Non sono un elfo. E allora non sei Anolian. Sì, torniamo un attimo. Tu sei molto indispettito da questo cape, ma anche un pochino spaventato. Hai un oggetto? Beh, in realtà no, perché a me me ne frega. Ho un oggetto? Beh, in realtà, però tu non puoi che la cosa perché non sono qualche oggetto addosso. Non percepisco. Sì. Però ecco, preferiresti che queste storie non venissero fuori. Se fuori questa interessa. Storia così all'improvviso ti sembra fuori. No, in realtà mi interessa per un servizio che per me non... Te lo ridò. Questa storia non riguarda te, quindi... Sì, ma in senso l'altro adesso riguarda te. Se io ora mi giro dall'altra parte. Sì, cazzo, cercate di uccidermi. Thunderwave... Lui gli ha detto, mi giro e ti ignoro. Se girava esagerato. Giulio, è un freddo. No, perché lui mi ha detto che ha notato un oggetto nel, che ho addosso. Io gli ho detto sì, ma non ti interessa. Senti, mi sono girato, non è che gli freghi, c'è un oggetto addosso a qualche parte. Oddio, lo vedo, Vessa, perché lui effettivamente è appoggiato. Se lui mi dice lui è un oggetto, riesco a vederlo, riesco a prenderlo. Fammi un perception. Vabbè, se si avvicina faccio tutto. Vabbè, devo vedere se mi vedi mentre lo rubo, sono comunque un ladro. Capito? Ma cioè, sono nella gatta buia e tu sei davanti a me. No, perception basso, ho fatto 8 totale. Non lo vedi l'oggetto che dice Giulio, cioè non capisci cosa potrebbe essere. Scusami, sei sicuro che abbia un oggetto magico? Chiamato la guardia? Sì, sì, sì, la guardia sicuro. Si avvicina e dice: ci sono problemi, ragazzi? No. Sì. No, sì! Ti prego, non fate! Sì, in generale, perché il nostro compare ha dei problemi, ma in questo momento non abbiamo bisogno, grazie. Come no? Di cosa abbiamo? Possiamo risolvere tutto da solo? No, capitano, signor Cabe, cosa posso fare per lei? Vuole chiamare chi chiami il capitano? È proprio necessario? No, non direi. Sì, è necessario. Ma che cazzo vuoi, Giulio, della mia vita? Se il signor Cabe vuole che lo chiami, io lo chiamerò. È proprio necessario. Sapete che se il capitano non fosse... Necessario. È proprio veramente necessario, signor Cabe? La prego, ci pensi? Va a chiamare il capitano. Se davvero ti vanti delle storie che dici, hai bisogno del capitano. Qua, non credevo. Ma perché vuoi far morire il tuo personaggio? Infatti non ho capito, ma io sto capitando. E cioè, vabbè, rispondi. Vabbè, il tu... Cosa che hai chiesto? Non rispondi neanche. Sì, no, non rispondo, sto ignorando la grande. Ah, ok. Il Sceo tu... Torni te stesso, sei lì, per te è l'inizio della conversazione, solo che li vedi tutti molto più scuri in volto di... dell'inizio e non ti parlano. Cioè, per me è come se fossero appena arrivati in questo istante. Mi puoi dare quello? Cioè, ci sembra che ci sia stato un vuoto, qualcosa di vuoto, però cioè, per te non è successo, cioè, ci sono state le domande di Katta e quindi tu direi che ricominci da quello che stavi dicendo a Katta. Che mi aveva chiesto, mi aveva detto se no, ti aveva detto che sarei rischiando grosso sul mare. No, ma proprio così, ha detto che sto rischiando grosso. Ok, ragazzi, sì, ho sbagliato, però vi assicuro non succederà più, ne ho la piena certezza. L'oggetto che hai addosso. Ok, oggetto. Ok, questo è stato abbastanza strano da vedere come cosa, cioè tipo inizialmente era io vi odio tutti e poi comunque sì, sono stato sbagliato e pagherò per quello che ho fatto. Ma è un oggetto che ho sempre portato con me, fa parte. Fammelo vedere. L'oggetto non vuoi. No, è mio, cioè. Fammelo vedere. Vabbè, arriva sto capitano, no? Arriva il capitano con una faccia della serie. Ma perché voi dovete creare? Ma sappi che non cosa c'è questa volta? Hai deciso che cosa fare? Esatto. Perché no, dicevo, mi dispiace il capitano di averla disturbata, però dispiace, ti prego, non lo far fare. Fammi vedere. Aspetta, che Kate sta condannando a morte. Quando iniziano a finire di discutere di bambini di bisticciare, allora silenzio. Devo dire due cose. La prima è che non mi sento affatto sicuro da questa persona. Cioè, mi sento abbastanza... Ho paura per la mia vita, insomma. Mi sembra il caso di tenerlo in nave con noi. E la seconda cosa è che, a parte che lo considero un pazzo squilibrato, non mi ha fornito alcuna giustificazione, e poi mi hanno detto che indossa un oggetto magico. Quindi forse è stato lui a tirare maledizioni, oltre... al problema del ok peso, ok no no no piano piano la maledizione di cui pare non c'entra assolutamente nulla. Non lo possiamo sapere, forse è lui che ha un test di medicina per vedere se magari sono delle patologie. Fai un persuasion con svantaggio sulla cosa. No, non voglio convincere, voglio solo insinuare il dubbio. Vabbè, fa lo stesso sulla, per la cosa dell'oggetto. Però non può essere con svantaggio perché il capitano non vuole vedere la magia. No, lo svantaggio è perché lui ha visto la cosa del teschio, quindi non è molto propenso. Io voglio dire che lui è un oggetto magico, sì. Che forse lui è causa di tutti i casini che sono successi, quindi... Vabbè, ci sta, però devi persuaderlo di questo, mi fai un tiro su questo. Non voglio persuaderlo, voglio solo dirgli... Non è che la sua reazione sarà vai in mare tu, semplicemente... Vediamo quanto sei convincente su questo, che comunque non è una cosa che pensi che sia così. 14 e 13, prendo 13, quindi 13 più 6, 19. Dice: avere oggetti magici può essere pericoloso. Quindi tu non ti senti sicuro, direi, di tenerlo. Ci sono altri oggetti magici nel raggio di 30 piedi, oltre ai due che ho sentito. Ma capitano, lei sa qualcosa di magia? No, se no potremmo farla esaminare. Solo che porta sventura su questa nave e su tutte le navi. L'amico Fritz lì mi sembra esperto, quindi direi di farglielo vedere, al limite buttarlo in mare. No, non voglio sapere nulla di magia. No, buttiamolo in mare direttamente. L'oggetto... Ehi, Cave, tu sarai anche un grande eroe sul continente, ma su questa nave comando io. No, l'oggetto dico, non lui. Ma che oggetto è? Domanda a me. Non lo so, o lo vediamo e lo prendiamo, oppure lo buttiamo in mare. Ma come fate a sapere che è un oggetto se non l'avete visto? Il chierico. L'abbiamo percepito. Il mio amico qua sa di magia. Tu, dentro la gabbia, tira fuori questo oggetto. Tipo con le lacrime agli occhi. No, in teoria puoi anche dire che non è nessun oggetto, se vuoi. Cioè, come vuoi, scegli tu. Cioè, tu non vorresti mostrare. Anzi, domanda. Voi lo stai per tirare fuori? Aspetta, come c'è l'oggetto? Se interagisce con qualcun altro, ha degli effetti. Tu non sai molto su questo oggetto. Okay. L'unica cosa è che sai che l'altra parte non vuole assolutamente farlo. Quindi, se lo stai per dare, mi tiro un tiro salvezza. No, no, non lo faccio. No, come vuoi? Tu puoi pensare che sia una cosa. Sì, lo faccio. Cioè, la mia idea sarebbe. Tira la salvezza con svantaggio. La mia idea sarebbe di fare così. È semplicemente questo, ma non è niente di che. Però tira la salvezza con svantaggio. Ci sta. Uno. Perdi la tua tramontana, non hai alcuna intenzione di mostrarlo a questi esseri inferiori. Mi incazzo a bestia e comincio a urlare: no, non lo avrete mai! E lo rimetto lì. No, però aspetta, però tendenziale come vuoi, cioè, prendila come vuoi, però. No, non lo avrete mai, urlo ad alta voce. Vabbè, lo so che ce l'ha, non è neanche. No, lo sa anche il capitano adesso. Visto che l'hai detto, sì. Non sono molto astuto, cioè lui non l'avrebbe mai fatto. Vabbè, ma che ce l'ho è chiaro ormai. Perché? Perché, beh, vabbè, sì. Guardava come balla. Vabbè, e niente. Non puoi ingannare l'ingannatore. Potrebbe essere la prima storia che assiste alla morte di un personaggio non per combattimento, ma per storia. Vabbè, secondo me si può semplicemente buttare l'oggetto in mano. Easy. Se no, il capitano non vuole assumersi la responsabilità di guardare. Va bene, il capitano dice: io non voglio sapere nulla di questa magia. Che è oscura, tu rimarrai in gabbia perché di fatto io non ho visto comunque la tua azione, eccetera. E comunque tu non sei stato colpito, Cade. Ho capito. Mi scusi, capitano, non sono un po' eccessivo. Cioè, se io mi difendo e non mi colpisco. No, ci sta. Però non è abbastanza per condannare un uomo a morte. Ma verrai... No, non dico questo. Verrai frustato. Capitano, posso parlare col capitano? Ho la possibilità di. Sei ancora. Cadono. Ho la possibilità. No, di secondo me sì, il. Certo, lo so. L'oggetto dovrebbe andare. E puoi fare un tentativo di tornare te stesso? No. Posso parlare? Sì. Okay. Una cosa però. Aspetta, lui intanto dice che verrai frustato e a Narcain verrai lasciato lì. Okay. Alla partenza. Vuole tenere questo oggetto con lui all'interno di questa nave o vogliamo disfarcene senza neanche sapere cosa sia? Io non so bene, non so nulla di magia e onestamente preferirei evitare ogni problema anche perché non è un mio problema. Buttiamolo in mare. Io non penso che lui abbia fatto dice, io ho deciso così. Lui non ha fatto abbastanza per essere buttato in mare, ma... L'oggetto? L'oggetto non so cosa sia. Ditemi che oggetto è. Capitano, io ho la soluzione. Tira fuori sto oggetto, allora. Posso parlare? Posso? Sì. Okay. Io le propongo questa cosa. Buttarlo a mare creerebbe solo problemi a lei e ad altre navi in questa zona. Non glielo consiglio. Minaccia pure? No. Non lo sto minacciando. Gli sto dicendo non conviene buttarlo in mare perché è un problema. Avresti dovuto vedere gli occhi di cazzo, tipo. Ah, di certo. tutto l'amore, con tutto l'amore che voglio, questa età. Vabbè, sta facendo un deception con quanto? 7. Sì, ma... peccato, è arrivato basso. Se lei mi concede, aspetta, Salla. Se lei mi concede un ultimo faccia a faccia, me con i miei compagni, le assicuro che fra mezz'ora torneremo tutti e nessuno avrà più voglia di parlare di niente. Saremo no, no, capitano, non sono d'accordo. Io non ne posso più, basta! Mi avete rotto le palle. Allora, Cabe, lei vuole parlare ancora con sto tizio? Qualcuno di voi vuole parlare ancora con sto tizio? Sì, capitano. Sì? Sì? No. Ma sì, no. Cosa? Ma cosa, che diritto hanno questi? Questa è la mia nave, decido io i diritti. Tu cosa vuoi, Cabe? Allora, Cabe, fuori. Tu, fuori. Tu, Quake. Io voglio amministrare fuori, allora. Punizioni corporali. Fuori. Tu puoi rimanere a parlare ancora per 5 minuti, dopodiché la guardia scorderà fuori. Anche... Mi avete rotto le palle. Tutti comunque fuori. Posso dire, è abbastanza assurdo che lui l'abbia minacciato. Io non l'ho minacciato. Lui l'ha minacciato e lui tipo la guarda dicendo, sì, vabbè. Cioè, io non l'ho minacciato. Io ho detto che questo oggetto è pericoloso se buttato in mare. Non l'ho minacciato. La tipo cagata, cioè tipo la... Non è una minaccia, io non gli ho detto io farò qualcosa. Cioè, lui non, sapendo di, oggetti magici non gli ha creduto particolarmente. Però è anche vero che non sa che cazzo di oggetto magico sia. No, però esatto, però buttarlo in mare non costava niente. Allora, mentre tornate su, ti chiede se ritieni davvero pericoloso questo oggetto, quindi. Cioè, dice che bisogna... Cioè, che oggetto è? Non ho capito. Lui dice che oggetto è, perché io non ho visto nessun oggetto. Sto parlando col capitano, io. Sì. Siete fuori. Secondo me sia lui, l'oggetto non so se è pericoloso. Lui so che è pericoloso, però voglio dargli il beneficio del dubbio e quindi non infliggere una pena, diciamo, eccessiva. Per cui a lui comunque non, cioè, nel senso, il fatto che stia lì in gabbia va benissimo. Il problema dell'oggetto magico è che è imprevedibile. E nel dubbio io lo butterei in mare, che non dà rischio a nessuno, non dà pericolo a nessuno, e ciao, tanti saluti. Cioè, tanto non costa niente, lo prendi, lo tiri in mare, è finito, il problema non si pone, te lo sei gettato alle spalle. Dice, guarda, ok, se ritenete che sia pericoloso, noi possiamo allora aprire la prigione, diciamo, togliergli sto oggetto, cercare di togliergli sto oggetto. Basta addormentarlo. Lo sì. Poi. Va bene, allora ci organizziamo e per fare questa cosa qua. Però poi non lo dico per così, perché alla fine No, effettivamente ci sta sto commento, perché non è stato spiegato. È quello che dicevo prima. Lui è molto infastidito da tutto questo, però al tempo stesso è tipo... Però al tempo stesso, però al tempo stesso non vuole correre il rischio per la sua ciurma, e qui, e comunque tu hai un minimo rispetto agli altri di ascendente, quindi no, accetta. Io è una roba che non apprezza, non paga nessun prezzo. Va bene, ora avete pochi minuti tu per parlare con Giulio. Ok, da solo? Il titolo, sì. C'è una guardia lì. Vabbè, okay, però non c'è capitano, non c'è ufficiale, non c'è nessuno. No. Vabbè. E il discorso è questo, cioè, mi vedono gli altri, cioè, dove sono? Cioè, ci stanno guardando tutti, tipo sono andati fuori, la gente magari guardia, che si è aggregata dal bordello, no? Cioè, no. Senti legata a me, sono andata qui, c'è solo la guardia, diciamo. Allora non sei in una buona posizione, assolutamente no, però ti ringrazio perché sei stato l'unico che mi ha giusto, posso fare un tiro di salvezza? Devo provare un tiro di salvezza qui. Sì, giusto, parla più ad alta voce con vantaggio, dai. No, non lo so. Billy. Sì, torni. Ok. Come avrai notato in questi ultimi. Però non ricordi. Okay, con non chi ricordi sto parlando? Più, cioè, ricordi un minimo di. Cioè, ti rendi conto che è in pericolo il fatto del tuo oggetto? E immagino che me lo faccia capire. Sì, cioè sai che è in pericolo e devi, cioè, secondo me mi dice, se tu vuoi comunque liberarti del tuo problema, quell'oggetto lì deve rimanere assolutamente tuo possesso. Infatti secondo me lui mi fa credo che lui mi dia almeno questa informazione. Questo è un tipo di cosa. Allora, io intanto dico, con chi sto parlando? In questo momento sono io, Sirron. Però ti spiego questo, ti racconto brevemente, immagino che non rivelare. Perché... Ho capito. Stai bene, stai a dire, fa un personaggio sano. Ho capito che Arrivo. Io ero te. Penso come verrà fuori il bar. Immagino poco tempo, quindi devo fare in fretta. E l'oggetto di cui parlate tutti è questo. Lo tiro fuori e glielo mostro. È un piccolo scrigno. E a te non dirà nulla. I dadi. In realtà dentro non c'è niente. L'importante è l'effetto ha su di me. Sì, esatto, non lo so neanche, non si apre, però l'importante è l'effetto che ha su di me. Da piccolo hanno fatto un rituale. Non dire informazioni! Devo farlo. No, senti tipo dolore assoluto. Devo farlo perché altrimenti... Fai un giro salvezza. No, cazzo, dai, fammi parlare. Sì, riesci a mantenere con grande dolore. Fammi parlare in fretta perché tra poco. Io posso provare a dargli tipo delle erbe per aiutare a concentrarsi. Cosa cos'è? Cioè, lo vedi che colora con se stesso sembra. Infatti, fammi parlare prima che sia troppo tardi. Anche lo riesce a prendere. Hai poco tempo però per fare questa cosa. Fammi parlare perché sento di avere poco tempo. Lui sta per tornare. E da piccolo hanno fatto un rituale per liberare lo spirito che era dentro questo scrigno. Il rituale è andato storto. Chi ha fatto il rituale è morto. Ora questo spirito purtroppo abita in me. Siamo cresciuti ormai Cazzo, insieme. Cos'è il plot point? Eh? Cos'è il plot? Sì, è Naruto questo. E ora lui è di fatto parte di me. Lui chi? Non lo so, no. Beh, non ti sembra più necessario. Non so, senso, ma non lui è... No, non so se... Vabbè, lui è... Uno no, il nome non te l'ha detto. Proprio perché non si fida di te. Infatti. Non conosco il nome. Non per caso. Ma ti posso dire sta dicendo tutto. Che... mi ha raccontato. Ma è uno spirito di un guerriero. Non lo so, cosa so. Non so. Sai che un tempo era probabilmente un potente stregone o qualcosa del genere. Che però adesso non riesce più a usare i suoi poteri, esatto. Ma ogni tanto l'unica cosa che può fare. Fosse stato io, sarei stato più spiritoso. Impossessarsi a volte di me quando non riesco a trattenermi, cosa ci sta per accadere. E solo che questo. E noi insieme ci stiamo recando al nord perché abbiamo sentito storie per il quale là potrebbe esserci la soluzione per liberare entrambi da questa. Chiamiamola maledizione, da questa catena che ci unisce. E il problema è che non ho ancora chiari i motivi, ma questa persona, questo essere, questa presenza è assolutamente incazzato, arrabbiato a morte e vuole vendicarsi su questo Anolian. Strano, non essere inutile noi. Beh, tu sai, in realtà presumi da un minimo di frammento che lui sia tra un po' in qualche modo correlato al fatto che lui sia stato imprigionato. Sì, ok, ho capito. Sì. E quindi lo spirito si vuole vendicare. Io non capisco esattamente i motivi e la storia che c'è dietro. So solo che l'ho capito che lui ha capito che non è lui. Io ho capito che. Che lo spirito ha capito che tu non sei Anolian. No, sì, l'ha capito, ho capito. Solo io lo so che cioè, visto che a quanto pare sa molte cose io di però, Anolian, lui conosceva Anolian e si è reso conto che in realtà quello che si spaccia per Anolian non è lui. Quindi ti posso assicurare che non cercherà più di fargli del male, ma cercherà probabilmente di estrapolargli più informazioni possibile per sapere che fine ha fatto questo Anolian e i suoi compagni. Forse che è un'altra nave. Beh, insomma, penso ora... che hai solo un modo per uscire da questa situazione con lo scrigno. Suicidare. Uccidere me. Dammi lo scrigno e te lo regalerò. Effettivamente io mi sto fidando di te. Cioè, questo è il plot point, come l'avevo pensato... Ma è che a parte se fosse davvero un capitano, lui verrebbe abbandonato, quindi a Giulio rimarrebbe lo scrigno. Vedremo. Ma lui non lo vuole uccidere. Adesso però entrate e prendi questo oggetto. Ora effettivamente potrei affidare. Ah, viene abbandonato al prossimo porto, però non lo vuole uccidere. Questo scrigno a te. Io ho la sensazione che alla fine lo spirito per questo gesto si impossesserà di me, non vi tratterà bene. Però ora tu sai la verità. Sì, beh, gli dei proteggono. Sì, sì, sì. E spero che più che proteggere in questo caso facciano cambiare idea ad alcune persone. Okay. Quindi non lo so. C'è una guardia qui che non è molto attenta, però se volete farlo in stealth. Sì, provo a farlo. Oppure in altro modo. Però, non so, la guardia si sta guardando, non so. Possono fare un mezzo abbraccio e glielo passo. Abbastanza easy. Lui vuole un abbraccio. Non so, faccio un tiro. Fatemi un tiro... 20 di dado, sì, se non ci riesco... Vai, Master suo, perché io non sto facendo... vabbè, fai anche tu. Per non fare uno, non fare uno. No, cazzo, non mi amo. Vabbè, è 10 di vabbè, media. Allora, tu glielo passi. Lui cade, cade, si rompe. Cade una roba per... No, serio? No, lui non ha visto che tu gli hai passato un oggetto. Però vede una cosa che cade a lui e lui che... Vabbè, però allora visto che gli ho dato io posso fare uno. Porca puttana. Vabbè, c'ho anch'io, mi sono trasformato. Vabbè, è caduta una cosa lì, la raccoglie. Però la raccoglie. Hai uno, hai sto scrigno strano. Cosa succede? Immagino che non sembra molto aperto. Però adesso non c'entra. Cosa? Niente. Devo tirare? No. Mi cade sempre il sacchetto delle monete. Giulio, Giulio, dopo che tu l'hai è divertente, lo mette nello zaino e esce dal buco. No, sono passati dei giorni, l'ho riparato. Recuperi il coso, cioè la guardia vede che recuperi sto coso, però non, forse non ha, probabilmente forse non ha capito che gli era dato, cioè speri che non abbia capito. No, dico, da quando lo zaino, il teschio mi ha bucato lo zaino, mi cadono sempre cose. Come non ricordare, fammi un deception. Uno. Non so che cos'è? Per il carisma. No, 18. Ah. Ah beh, anche a me spesso cadono cose, non ti preoccupare. Però dopo che hai recuperato questa cosa, entrano Eric, Quake, il capitano Tarren. No, io non vado con loro. Beh, no, lui chiede che sei anche tu con loro, il capitano chiede anche tu. Vuole che comunque tu stia lì, cioè non... Lui comunque vi ha visto un po' combattere, sa che lui è pericoloso, vuole che tu sia lì comunque. Cioè è una cosa che riguarda te e lo prendete voi l'oggetto. Sì. Voi e gli altri marinai. E arrivano un gruppo di marinai, c'è anche il primo ufficiale Albrich, sono proprio un gruppo, e entrano e dico, ok, adesso... Hai percato altri oggetti addosso? Invisibili. Visibili. Non ho niente perché. Ok, ex salame. Ora hai la possibilità di ridare quell'oggetto. Se no entreremo, vedi la cosa dei trofei. L'unica cosa ho la collana fatta di denti di orso. È l'unica cosa che ho. Ora ti. Aspetta un attimo. Ho bisogno di 10 minuti un attimo di raccolta. Ma no, stai cercando quello che è accaduto a Giulio? Ah, no, li hai già avuti allora. Aspetta, no, vabbè, prima che comincino, devo riflettere un secondo, capitano. Devi fare sto detect energy, no. Ah, no, ma cos'è? Avevi 5 minuti, lui è andato, però. Siete 5 minuti, gli è andato, ora siete lì e vai, andate. Tu puoi partire, cioè hai già 5 minuti avanti. Detect magic. Però tra 5 minuti ce l'hai. No, ce l'ho prima di entrare. Se l'ha caricato prima, ma sì, 5 minuti, però 10 ce ne vogliono a te. Ci vogliono 10 minuti per farlo. Ok, vabbè, adesso loro entrano, poi tra 5 minuti la farai. No, io dico prima di entrare al capitano, visto che mi vuole lì. Ah, ok, va bene. Lui andava a fare un'altra roba, però lui ha detto che mi vuole lì. Okay. Prima di entrare, allora gli diamo 10 minuti. Fagli un persuasion, 5. Però, perché lui si è già scocciato e vuole risolvere questa cosa veloce. 19 di dado più 6 va bene, 5. Aspettate 10 minuti, dopo 10 minuti entrate e io nel frattempo esco perché avevo 5 minuti e sì, puoi uscire tu, se vuoi. Sì, però se ci passa di fianco e dipende, però lui esce prima forse, vabbè, credo di sì. Beh, non rimane lì con noi. Sì, perché dopo 5, sì, perché dopo 5 minuti la guardia... ma il capitano lo manda via o lo tiene lì con noi? No, la guardia semplicemente lo porta fuori. Visto che lui si fosse stati 5 minuti, loro sarebbero entrati e lui era lì. Però visto che lui ne vuole aspettare 10, no, lo scorta semplicemente fuori dalle battaglie, quindi è lì. Ah, ok. È sulla nave, non necessariamente da voi. Questo lo sceglie Giulio. Lui esce dalla cosa, lui, tra il momento in cui lui esce e voi che arrivate ci sono 5 minuti, quindi lui in realtà può tu vedi fuori che il capitano sta raccogliendo gente e ci sono anche gli altri. Capitano, mi dia l'onore di amministrare la giustizia. Va bene, dimmi adesso che sei vicino fino a... Non lo so, Giulio, tu dove vai? No, sarò lì vicino. Ok. E gli oggetti... Che hai? 10 minuti, quindi io entro 10 minuti immagino di entrare. Ok, cioè adesso... Ah, quando quindi entrate, tu entri con loro? No, no, aspetta, fermi, no. Allora, non ho capito un cazzo. Allora, quando entra... fermo, una cosa così. Tu esci, loro stanno raccogliendo, dopo altri 5 minuti vanno dentro. Esatto. Nei 5 minuti tu dove stai? No, io resto fuori, dopo lato. Cioè, quindi se mi chiedono qualcosa dico... Ah, non lo so. Tu, dai, quando esci loro sono lì che si stanno raccogliendo. Poi dopo 5 minuti vanno giù. Cosa fai? Io sono di fermo. Stai sul ponte mentre loro entrano. Sì. Ok. Quindi rimani fuori. Cagata buio, sono uscito. Già rimani fuori. E allora, quindi tu entri alla gatta buia, che raggio hai? No, piano. Di fuori prima di entrare, Giulio ha un oggetto magico. Ma Giulio è sul ponte, voi siete giù ora. Prima di entrare, lui comunque l'attiva. Prima di entrare, lui l'attiva. Appena entriamo, lui lo attiva. Appena entriamo, no, prima. Appena apre la porta per scendere, lui ce l'ha già attivo. Quindi okay. Giulio è lì. No, ha detto così. Lì non ci volevo essere. Però visto che ci devo essere, prima di scendere. Però dalla porta. Ma Giulio ha detto che rimane in zona. Giulio ha detto che rimane sul ponte. Sono sul ponte. Mi dici quanto hai di raggio per piacere? 30 piani, 9 metri. Mi sa che non vi siete capiti. Io ho capito. E io intanto sto facendo la mia minchia. Quando stai per andare giù, lo attivi. No, quando lui arriva, lui fa che ci siamo, io 10 minuti attivo e quindi mi muovo verso di lui. In modo che a questo punto se lui è... Ma lui chi? Lui chi? Tarren? Giulio. No, ma Giulio non dice niente. Quando il capitano gli dice... Siamo pronti, ti muovi verso Giulio. Io lì ce l'ho già attivo. Ma tu stai facendo tutto questo perché hai sentito che l'ha preso Giulio. Il tuo personaggio lo fare. Cioè, tu lo vuoi fare su Sceo sta cosa. Arrivare dove c'è Sceo. Però ce l'ho da fuori prima di entrare. Sì, però all'ingresso della cosa. No, io ce l'ho appena il capitano mi chiama, mi dice siamo pronti a entrare, io sono di fuori. No, il capitano ti dice siamo pronti, tu gli dici aspetta, ho ancora bisogno di 5 minuti, di fatto, perché hai bisogno di 10 minuti. Non vi siete capiti. Quindi quando ce l'hai pronto a 10 minuti, voi siete pronti a entrare, lo fai attivare però all'ingresso, penso, no? Dove lo devi attivare subito, appena finisco in 10 minuti, quindi io sono sul ponte, quindi se per sbaglio Giulia è lì vicino, io lo vedo. D'accordo, però sono 9 metri. No, però quanto dura sta cosa, scusa? 10 minuti. Dura 10 minuti anche l'incantesimo dopo? Sì. Ok, d'accordo. Il tempo va bene. Allora. Io non so se mi passa vicino. Dipende da Giulio in quel momento. Dipende Giulio cosa fa. Ma io esco dalle prigioni e dico, vabbè, secondo me soffre di una qualche forma di schizofrenia. E cosa ti ha detto? Ma cambia personalità, è strano. È molto capitano, lo vede, è grave. Dici che potrebbe essere legato a questo oggetto? Non lo so, forse no. Secondo me è il deception. Lo dobbiamo far tutti perché lo stai dicendo. No, però in realtà no, però alla fine vabbè, oddio. Non dice niente. Tu sì, non facciamo intuizione, però. Ma no, su di voi non facciamo i tiri come prima, non potete fare i tiri. Allora, fai un deception sul capitano. Sì, beh, con vantaggio perché noi ci dovremmo bere quella storia di non credere sulla magia. Dipende se ti fidi di Giulio o me. Bello, 9 e 5. Quindi 10. Vantaggio o svantaggio? Vantaggio. 10. Cioè, ma più o meno quindi, l'ho capito. Vabbè, capitano, così se lo interrompo. andiamo a prendere l'oggetto e buttiamolo e poi vediamo cosa succede. E mi rivolgo verso il chierico. Lui prima l'ha individuato, viene a indicarci dov'è. Sì. Questo si chiama fottutamente power play. No, più che altro io probabilmente non sono passato. No, vabbè, forse Blaine è morto 2 ore fa. È lui che però ci ha detto. Sì, ho capito, ma tu stai giocando solo perché noi giocatori eravamo qui davanti a te mentre facevamo la scenetta. Se la facevano di là in basso, no, allora, diciamola bene, a parte che io di nuovo non volevo neanche venire. Io potrei sapere che tu stai usando Detect Magic perché quando l'ho usata io dipende se sono passati 10 minuti. No, 5. Beh, nel momento sicuramente 10 minuti perché ho parlato con sono passati 10 minuti. Ah, ok, davvero è arrivato prima. Vabbè, non è attivo. Quello. Non è attivo. Beh, vabbè, lui ti dice, Kaby dice così. Se, nel momento cosa in cui glielo chiedi, vuol dire che siete vicini e lui ha sentito che sei tu. Beh, 9 metri a no, no, qua stanno ancora parlando che ancora non è attivo, si stanno ancora parlando. Però glielo chiedo perché in effetti sei tu che l'hai individuato prima, io non sapevo neanche che ce l'avesse. Vai, Kaby ti chiede così. Cosa fa? Perché lo sapevo? Non lo so, raga, perché io so che lui lo sapeva perché ha usato il Detect Magic l'altra volta, cioè facciamo tutti i metagame. No, lo so che non me l'hai detto, ma io lo so da giocatore, come tu adesso sai tutte le cose che abbiamo fatto adesso. Lui sta giocando da metagame, quindi io lo facciamo tutti. Rega, è lui che mi ha detto, io ho visto. Rega, cerchiamo di giocare bene. Lui però ti dice questa che ci può stare come cosa in generale. In certo punto. Diciamo che fa un po'. No, il problema vero è che fa un po' a pugni col fatto che tu hai attivo Detect Magic. Quello sì. Ancora no, lo so, ma il fatto che lo sta attivando. Il tuo personaggio sta dicendo: ehi, dimmi dove è l'oggetto. Intanto fai Detect Magic. Se non è metagame questo, che cos'è? Cioè, no, però aspetta, non litighiamo, fermi. No, non è litigare, è un dato di fatto. Se tu fai Detect Magic, non vuoi chiedere a lui di indicartelo. Non ha senso. Aspetta, devo dire una cosa, però mi ascolta. So che al capitano dà fastidio quando uso la magia. Io non voglio scendere e dire è quell'oggetto lì perché l'ho visto con Detect Magic. Io voglio che lui, che l'ha visto prima, vada giù e dica è quello lì. Va bene, rega, ok. Va. Rimaniamo così. Giulio, tu Cape, diciamo che se l'è scampata molto bene. Cape, ha giocato in metagame. Vabbè, ragazzi, ognuno però gioca come vuole. L'ha giocata bene. Cioè. Sono sicuro che sai individuarla anche tu. Puoi individuarlo tu. Vabbè, però allora andiamo giù, andiamo a cazzo e vediamo. Scusa, tu sai già cos'è? Dimmi come hai fatto. Non lo so che cos'è. Io l'ho percepito, ma non l'ho visto. Non me l'ha tirato fuori. Vabbè, ecco, capitano. Adesso dovresti fare tu il tiro e lui per. No, tra di voi non lo fate, rega. Di voi non lo fate. Boh, allora di massima. Poi come adesso volete, se volete li facciamo sempre. Allora, li facciamo sempre o non li facciamo mai? Vabbè, allora non c'è più role play. Esatto, secondo me alla fine ci sta. Allora, che chi fa il tiro più alto ha ragione. Cioè, ci sta che alla fine voi rimaniate col dubbio. Cioè, è ovvio che tu, Salla, magari dici, ma perché Giulio è così scontroso? Tu dici, ma perché lui è così insistente? Sì, cioè, nel senso, non mi sta costringendo Giulio a scendere. Dicevo, vabbè, capitano, è qualcosa che allora, Kaby, quando ci siete, andiamo e risolviamo sta cosa. È qualcosa che ha al collo. Vabbè, non lo so. Se lui non vuole seguirci, provo a venire io e provo a vedere se lo riconosco. Perché però, non vuoi venire? Non ho conosciuta niente. No, l'ho già fatto, se ci tenete proprio. Kaby, io non lo so, noi quando sei pronto andiamo, se tu vuoi lui convincilo a venire, vieni. Se... No, vabbè. Hai bisogno, di lui? No, ha detto che lo so riconoscere, andiamo a vedere. Come? Cioè, dice, io sulla magia non so nulla, quindi mi affido a voi, noi semplicemente entriamo e glielo spogliamo se non ce lo dà. Cavity Search. Vabbè, chi di voi vuole venire, Kaby, tu vieni, chi altri di voi vuole venire ci segue. Andiamo e prendo una frusta lenga. Così va bene se gioco così o mi dà fastidio anche se gioco così? No. Ah, allora state zitti. No, perché qua sembra invito che no, cambi, rega, dobbiamo stare qui. Io avrei fatto a tiri alcune cose perché vabbè, dopo ne parliamo fuori. No, in caso, sì, però stava di fare tutto a tiri dall'inizio. Come volete voi. Tutto a tiri, però secondo me io l'ho giocata da Dio e anche il fatto che non ti abbia fatto venire l'ho giocata da Dio e quindi certo. No, beh, l'ha giocata bene. Oh, almeno l'ha giustificata. No, sì, tu, nel senso, non ti sei giustificato per il fatto di non essere ucciso ancora. Va bene. Allora, nessuno di voi è stato perfetto, ma comunque non è stato così oscena. Posso frustare scena? Non andiamo. Mentre stanno avviando, io mi avvicino un attimo a... Sì, ma in fretta c'è la giustizia da amministrare. No, dai, scendiamo. Oh, fretta. Sì, ma la giustizia... Allora, no. Deve essere giusto. Deve essere giusto. Ci sei o non ci sei? Stai parlando con chi? Non vedo chi indichi. Con là, scusa, Kappa, ci sei o non ci sei? Io sì, ci sono. E allora andiamo subito, perché a me scade l'incantesimo. Allora, andiamo. Quando sei dalle scale, quando sei dalle scale, attivi si attiva l'incantesimo, di fatto, giusto? L'attivo subito, mentre scendi. Cioè, ok, tu andando. Giulio, cosa fai mentre lui sta andando? Io mi avvicino, mi avvicino un attimo a Kappa, non mi interessa se percepisci. E gli dico, la giustizia deve essere giusta e deve conoscere ogni cosa. Anche il verdetto degli dèi. E che cosa dicono gli dèi? Sì, un attimo. Seguo Giulio, allora. Lascio andare avanti loro. Ciao, buone, noi andiamo. Allora, però intanto è attivo l'incantesimo e voi presumibilmente siete a 9 metri da lui. Sì, lui avverte probabilmente. Allora, sicuramente ora come ora che siete ancora su, c'è un oggetto... di quello che ha Eric sempre. Sì. E poi mi devi dire l'altro, mi devi dire che aura c'ha, io dico è quello di Sheo perché lo so. E l'altro me l'ha già detto prima. E l'altro, sì, potrebbe essere quello di Sheo, che è strano, quindi come aura potrebbe benissimo essere quella sua di abiurazione, però è da Giulio e Kappa. Beh, più che altro sapendo che lui l'aveva già fatto però prima. Però voi ormai state entrando. Quindi... Lui l'aveva già fatto prima, ma nessuno degli altri lo aveva. Solo che l'oggetto di Sheo ora ce l'ha Giulio. Presumi di sì. La cosa però ti sto in teoria... È quasi certo per te, a meno che vai lì e non si è sdoppiato, o comunque ce n'è uno qua, o ce n'è uno simile. Perché in teoria tu comunque... infatti il punto per quello, lo riconosci, linea di massima, però a meno che su Sheo poi non ce ne sia un altro, e quindi è un altro uguale o simile. Ho dei dubbi su di voi dalla prima sessione. È il sospetto, ma non la certezza. Beh, però lui la prima volta che l'ha fatto sapeva che su me 4 solo due oggetti alla fine non ha avuto senso, però ci sta. C'erano solo due oggetti. Ultima scena, la forma è la stessa, ciao. Anche quello, come puoi non giustificarlo? Ok, va bene, intanto facciamo la parte in cui voi scendete, quindi tu comunque continui a scendere con loro, non li fermi. Okay. Adesso ne vede due. Scendete, arrivate, arrivano da te e ti dicono, ok, ex salame, hai la possibilità adesso di dare questo oggetto che dicono i tuoi amici, oppure entreremo con la forza, te lo prenderemo. Bene, nel frattempo Kappa, io ti esatto, tu cosa mi dici? Aspetta. Non potete farla nella trasmissione. Cosa? Cioè, non potete parlare in due discorsi. Ah, esatto, aspetta. prima poi giochiamo questa e poi giochiamo la vostra. Io che avvengono contemporaneamente. Io non so cosa intendete, ma io non ho nessun oggetto con me. che persone fastidiose che siete. Aprite questa gabbia! Entrano. Io sono tipo affranto, sto mezzo piangendo in realtà. Tu cosa fai? Ti difendi o non da loro? No, io faccio così. Non ho nessun oggetto. Ti prendono, ti spogliano. Prendono. Che oggetti c'hai addosso? Ho solo la catena con i denti d'osso. La catena ti viene strappata. Aveva ragione il druido, il chierico. Druido, chierico. Ti viene presa la cosa. Viene data tutto a te, Cade, fondamentalmente. Tranne un po' di monete d'oro che tu hai. Quante ne hai in totale? 100. Ok. Così ricchi, così pochi. Aspetta. Io l'ho speso. Non ho speso nessuno. Con te hai... hai detto 140? 144, ok. Hai 40 monete d'oro che... che cadono dalla tua cosa e cadono per terra. E alcuni marinai un po' meno zelanti. Posso essere tra i marinai meno zelanti? Non essere tra i marinai meno zelanti, assolutamente. Sheo viene spogliato. La roba che, a parte le monete d'oro, viene consegnata a te, Cade. No, aspetta, se ha solo la collana d'osso, io dico, il chierico aveva ragione. ha solo una collana, quindi sarà quello l'oggetto. Beh, lui intanto è stato spogliato e sta venendo portato su per essere postato. Ok, intanto io prendo la collana e dico, capitano, la butto in mare, nel dubbio. Ma non è il Detect Magic tu attivo? Tu hai Detect Magic e non c'è nessun oggetto magico su Sheo. Vabbè, però lui dico, fa sto gesto. La collana è l'unico oggetto, prendo la collana, capitano, la butto in mare. Ok. E vado a buttare in mare. Sì. E poi me ne vado. Intanto Sirron viene legato. In pratica lo salvi. E Tarnice, per chi disturba la quiete, adesso questo verrà punito per tutte le cazzate che ha fatto questo gruppo. E per perché non ci siano più insubordinazioni su questa nave fino a che arriveremo a Varkar. Cos'è che dicevi giusto? Allora, se vuoi proclamare che vuoi dare tu la cosa, prima, sì, però prima lui mi vuole dire una cosa, no. Quindi magari ottima osservazione. Partiamo su un altro cambio di scena momentaneo. Giulio e Katta siete là. Katta non so da dove ha preso una frusta, però ha una frusta in mano. No, anzi, in realtà non ce l'ha, cioè te la daranno in casa, sarà la frusta. Dimmi. C'è qualcosa che perseguita il nostro compagno? Sì, saranno le frustate. Okay, a parte il tuo braccio che impugnerà la frusta. Spiegati meglio. Tu sei un uomo degli dei comunque. Certo, tramite me viene amministrata la giustizia del mare. Esatto. C'è una strana... Allora dovresti affogare la spinta. Dovremmo parlare anche con l'Alfin. Con Cabe? Sì. Di quell'oggetto... Quanto me ne sono raccolto io? Adesso, sì, vabbè, scusa. Finiamo, sentiamo. Quindi stai dicendo che potrebbe non essere stato, potrebbe non aver fatto intenzionalmente quello che ha fatto? No, probabilmente è stato posseduto. Interessante. Ciao, Geo. Questo sicuro potrebbe il chierico bocca larga. Vabbè, lo dico un paladino, cioè non è che lo dico a... Certo, questo è un dilemma etico. Etico molto complicato. Sulla mia frusta. Esatto. Perché effettivamente se è come dici tu, lui non ha compiuto volontariamente il gesto, ma di fatto la persona che l'ha compiuto è identificata. Sto parlando in un linguaggio troppo forbito. Sì. Esattamente, non sei lì. Ma se inoltre, tutto esatto. È stato scelto dal capitano come espiazione per tutte le malefatte compiute in questa nave. Quindi ti posso comunque arrivare a un compromesso, ovvero che sebbene lo mascherò, cercherò di andarci più piano possibile con la frusta. No, questo non mi interessa. Ah, vabbè. Detto il gioco originale. Dopo questa vedete loro che escono. No, aspetta. Cioè, loro comunque... lo so. Perché ci stava come commento. No, la cosa più... No, ok, allora va. Noi tutti stiamo andando a nord. Sì. Questa maledizione forse può essere spezzata a nord, ma ci deve arrivare anche l'oggetto. Ok, e dov'è l'oggetto adesso? È nel mio mano. Ho capito. È il capitano! Un'altra frusta! Frusta! E questa cosa rimanga tra il nostro gruppo. Dopo parleremo anche con... Sei sicuro che sia sicuro averlo con sé questo oggetto? Soprattutto perché zaino bucato. Quasi quello. Sono sicuro di che siamo al sicuro, diciamo. Non è al sicuro il nostro bagaglio. A lui Sirron. Ci penso io adesso. Sirron. Perché penso che non so, forse adesso sia completamente seduto o qualcosa del genere. Però finché abbiamo noi situazione dovrebbe essere stabile, non dovrebbero esserci cambi. Cioè resterà in quello stato, però. Vado a togliere la possessione alla vecchia maniera. Basta tenerlo legato in gabbia, dormiente. Ok, Bez, mentre c'è l'esecuzione io faccio un'altra roba. Non un'esecuzione! Che cazzo di gioco? appena Kata ha finito di spiarlo ti dico cosa volevo fare prima invece di andare. Ho fatto un errore, scusate. Sì, arrivo. Condiviso sul mio profilo cosa che non vorrei fare. Tutti sapranno. Adesso lo vedremo tutti. Merci. Se sono taggato in ogni cosa. In realtà, e ora ci metterò mi piace. Tutti. Va bene. No, non so perché ogni tanto riesco a condividerlo sul VIP GDR, a volte no. Ok, sono già due mi piace perché devo metterlo io. Scusami. Salva video, nascondi video perché non nascondi video. Eccola. Condividi su una pagina. Beh, aspetta, questa è migliore. Vai, fatto. L'ho messo in piazza. Allora, sì. Scusami, Salva, mi hai chiesto. Qualcuno di voi mi ha detto qualcosa? Una cosa. Mentre Katta esegue, sì. Io faccio un'altra roba che ti dico dopo quando ha finito di eseguire. Prima Laz mi fai un tiro di le monete. O stealth o no, scusami. Che però è stealth. Slate of Hand, bravo! Vedi? 17 più 6. 23. 5. Sei un gran arraffatore, anche perché eri più pronto. E sì, ha rubato quelle che cadevano e poi ha rubato quelle che gli altri hanno raccolto. Dopo la... 25 delle 40 monete d'oro le prendi tu. Yeah. E tutti però quando cominciano tipo a prendersele, perché tipo alcuni lo portano su seguendo gli ordini del capitano, gli altri vanno lì a raffarlo, ti dicono ciao, sì, poi dico tutti al riccone, dategliele al riccone di merda, deve subire. Quando viene lì il capitano fa il suo discorso e fa: e allora che la punizione venga elargita, e dà la frusta a uno dei suoi uomini, però Katta se la ruba. Se vuoi poi è il mio compito allargire la giustizia dei mari. Come, scusa? È il mio compito elargire la giustizia dei mari. Tu vorresti elargire la giustizia? Certo. Beh, in teoria dovrebbe essere Keiba a elargirla, visto che è stato quello... Mi ha delegato il compito. Lo faccia pure il mio compare. E allora lasciate che sia lui, ma vada a non essere morbido con il tuo amico. Non lo sono mai stato. Comunque tutti questi favori qua... Monete d'oro, frustate, amico del tesoro, queste devono tutte tornare a Kei. 15 frustate. Ah, non una di più, non una di meno. Soprattutto una di meno. Direi che ci sta un bel Athletics. Non lo so. Quindi, esatto, voglio fare una prova per dosare nella giusta maniera. Ah, vuoi fare? Vuoi fare piano? Voglio sembrare. No, voglio allora fare piano, ma sembrare allora fai un deception. A cui metto la forza, perché esatto, lo fa con la forza anziché con la. No, sì. Va bene, ci sta, mi piace. Beh, onesto 17. Va bene, nessuno nota che non sei così. Però un po' di danni glieli farai. Tutti quelli che vuoi. Cioè, quante frustate sono? Vabbè, non stiamo a calcolare, ti fa molto male. È un critico. Non farlo svenire. Esatto. Però fammi un perception, dai. Pensavo un insight. Pensavo un tiro sulla sapere cosa. Per capire se lui te lo sta facendo. Vabbè, mi sento male a prescindere. Sì, però magari puoi capire se te le dà meno forte di quanto potrebbe. Fammi un insight. Quanto è una frustata? Un insight con costituzione. Sì, vabbè, 4. No, pensi che Katta ti voglia fare male, basta, perché è cattivo, è crudele. Secondo me invece ci sta che lo fa svenire, tipo a 0. Esatto. Fammi fare che ne so, Vediamo quanto è la costituzione. Ma no, ma senti stare a fare, vabbè, ti fa molto male e sei ridotto molto male. Viene riportato. Vogliamo avere il sangue! E marcerai lì fino all'arrivo. Di 4 slash. Vabbè, ragazzi, mi prestano qualche cura. Ma sì, ti curano anche. Beh, mi dovevano frustare, mica uccidere. E poi sì, il capitano si rivolge a Cabe e dice: e con questo spero di che siano finiti i vostri casini. Povero lui. Lo dici mentre frusta. Lui dove rimane? In gabbia. Lui si viene portato in gabbia e verrà lì. Ah, giusto. E la testa è stata consegnata la sua collana e i suoi vestiti, di fatto. Io la collana l'ho buttata in mare. Sì. Volevo dire un'altra cosa. Mentre frustava, quanta gente c'è in giro? Più o meno tutto l'equipaggio. Bene, allora io mi prendo tutto il tempo di cui ho a disposizione, vado un po' in giro evitando i 4 smarmelloni, e vado a fare una prova di a girare, scendo in giro, metto in giro diverse cose. La numero 1 è che lui ha cercato di uccidermi, però io sono Cape, il grande, e l'ho evitato. La numero 2 è che lui è posseduto e maledetto e ha portato la maledizione in questa nave e le frustate non bastano. Vai, la numero 3 è che il capitano è giusto, però in fondo teme un po' la maledizione e che ci vuole una mano forte per evitare che la maledizione rimanga su questa nave. Dai, stira. Momenti l'ammortinamento. Direi che puoi tirare un raggiare complessivo, no? O vuoi fare un raggiare complessivo, un bel vantaggio? Perché un vantaggio? Spiegami perché il vantaggio. L'ho argomentata bene, non prendo il tempo. Argomentata, mi è piaciuta molto l'idea, però non vedo che vantaggio tu abbia verso gli altri. Vabbè, sono che il brainway. La CD sarà bassa, non sarà tanto alta probabilmente. Sì, ho fatto solo 13 più 8, 21. Tendenzialmente queste voci nei giorni successivi cominciano a susseguirsi sull'equipaggio. E spero che si alimentino anche da sole. Tipo, linciamolo! Sì. Io comunque la prima occasione che siamo più o meno insieme. Sì. Cosa vogliamo fare? La chiudiamo qua? Sì, la chiudiamo. Sì, dai. Ok, così poi torniamo a tutto il resto. Non c'è stato l'ultimo scalo, ci sarà la prossima volta. Pensavo, vabbè, comunque ci sta, è stato figo. E va bene. Ok. Però il fatto che è l'unico che ha ascoltato le due. Va bene, ci sta. E a questo punto direi che chiudiamo la puntata. Questo era il quinto episodio di Coloni. Il titolo è fuorviante, però vabbè. Probabilmente sarà il titolo anche della prossima. Si può cambiare. Sì, però vabbè. L'abbiamo definito così. E ci sta. Ho pensato che sarà la titolo avanti. Questi dadi che arrivano tutto. E vi ricordiamo che ci potete seguire sulla pagina Facebook di Typhoons & Dragons e su quella di RGDR. Sul blog rgdr.wordpress.com. Non seguite il podcast di RGDR. Non seguite l'ASC, ci sono cazzate. E detto questo, direi che possiamo chiudere le trasmissioni e salutarvi. Non sappiamo bene quale sarà la prossima puntata, ma seguiteci in ogni caso. Volete dire qualcosa prima della chiusura? No. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte a noi stessi. Ciao. Peccato che. Ah no. Grande. Vabbè, ciao a tutti allora. Oddio. Allora, invece il podcast. Tu ce l'hai? L'hai registrato il podcast? Quindi ti devo dare io, è ancora attivo, mi stai dicendo. Se riesco a chiuderlo, salutiamo anche gli amici del podcast. Addio. Per un motivo sempre.